La zanzara di Giuseppe Cruciani, che non è una persona intelligente, ormai il numero di parolacce fa sì, non le sente neanche più. Se Giuseppe un giorno dicesse la parola tenerezza, rimarrebbero tutti a bocca aperta, perché al cinquantesimo stronzo va in culo, cioè, passa, esce, entra un orecchio, esce dall'altro. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oddio, non ve sopporto più, non ve sopporto. La diretta, il podcast, la replica. Che Dio ve furmini, che Dio ve furmini. Comunque per noi, creature dell'abisso, la zanzara è un'oasi di libertà, di felicità. Sì, vabbè, Davide, c'è qualche danno collaterale, dai, qualche persona ferma all'aeroporto, qualche scena straziante, eccola. Qualche piccolo dettaglio di grazie fronte a che cosa? Grazie Starbucks, grazie agli amici della Starbucks, grazie a questo impero globale del cappuccino e del caffè che c'entra? Ha deciso in polemica con The Donald di assumere 10.000 rifugiati nella sua catena come lotta, resistenza non violenta e capitalista nei confronti di questo signore parrucchino giallo, personaggio che non sa fare neanche le leggi, lì si mette a firmare tutto senza sapere neanche gli effetti, ha lasciato fuori quelli che avevano la green card, ha fatto dei casini pazzeschi. Vabbè, poi ci ha ripensato, ma è uno sgrammaticato che non sa neanche fare le cose. Io ho detto: scusa, mio compagno Trump, ma cosa stai facendo? Ma stai sbagliando tu? Ah, scusate, forse ho sbagliato, ho troppa fretta, troppa furia, aspetta che rifaccio tutto. Ma è un pasticcione, Sì, ci sarà qualche danno collaterale, no, è un pasticcione, qualche centinaio di persone fermate, ma tre mesi, sette l'umiliazione, paesi. L'umiliazione. È vero che non ci sono i paesi che fanno business con gli Stati Uniti, i signori dell'Arabia Saudita, eccetera, eccetera. Per carità. Però, amici miei, però, ma questi sono dettagli. Lascia per il quadro generale. È importante. Fuffa negli occhi della gente, fuffa, non sabbia. Sabbia negli occhi della gente. Non dai. Siamo abituati a uno che prende decisioni dure, drastiche. Ma che dure? Stupide, drastiche, no, immediate. Eccola, immediate, il trampino. Ecco il trampino del demoschito. No, ma capito? Sei pronto a fare demoschito no, in America? No, non siamo abituati a uno che prende decisioni. Dunque ci ma spaventiamo. Decisioni stupide. Ci spaventiamo. Vediamo se sono stupido o no. Vedremo. Certo, non appare risolutivo nel fermare i terrorist, nel fermare le persone pericolose. Però non siamo abituati a uno che dice una cosa in campagna elettorale e poi attua, e poi fa, subito. Voi pensavate, dico, no, questo qua poi non fa le cose. E invece sì, subito. Le fa anche male. Comunque, ragazzi, comunque oggi mi pare tre mesi di prova, mandatelo a casa. Comunque oggi mi pare che la notizia più importante sia quella data dal quotidiano Libero. Quotidiano Libero ancora, è un quotidiano magistralmente diretto da Vittorio Feltri, il quale mette: sesso orale a chi ha votato no, dramma Saulino, due punti. Ecco come mi sono ridotta la bocca. I dettagli. Quali dettagli? Ma cosa dite? Ma questo dite? Che c'entra? Questo qua è il famoso pompa tour della Saulino che promise. Sì, ma uno può mettere in ma qual page. È il problema? Certo, sono le cose più cliccate. Che cazzo vuol dire? Dramma Saulino, cosa è successo? Dramma Saulino. Ma dai, ragazzi. Comunque, ragazzi, non molliamo qui con Donaldone, non si molla, sì, qualche errore, qualche piccolo dettaglio, qualche danno collaterale Ma l'importante è decidere. L'importante è decidere di decidere fronte, male. E di fronte a male vedremo. Di fronte a tutti quelli che si scandalizzano, tutte le anime belle. C'è chi segnala che le stesse cose Obama più o meno le fece nel 2011, più o meno. E c'è chi segnala anche che lì, ai confini con la Turchia, noi diamo dei soldi per respingere i siriani. Sì, certo. Diamo un sacco di diamo un sacco di soldi per fermare i siriani. Certo. Amico. All'Europa, alla Turchia. Ma i soldi li diamo anche noi. L'Europa li dà. L'Europa, certo. E dunque anche noi. È un accordo noi, che è stato fatto. E un accordo. Intanto diamo i soldi per respingere i siriani lì al confine con la per Turchia. Tenerli loro, per tenerli loro. Bravo. Comunque, ragazzi, gli Stati Uniti fanno il cazzo che vogliono. Decidono di fare una cosa. Ognuno decide di proteggere i confini come vuole. Ogni Stato decide di proteggere i confini come vuole. Ma volevo questo, ma se io adesso in polemica con Trump per mezz'ora non parlo, vengo pagato lo stesso. No, cioè il diritto sindacale, adesso voglio inaugurare questo, il diritto sindacale in polemica con Trump, io non parlo per mezz'ora. Ma stai in polemica, cacciatemi via! Poi facciamo le manifestazioni. Cacciato perché cosa in polemica con Trump. Sto zitto in silenzio fino alle 7:15. In polemica con Trump. È una protesta dai. Legittima che posso fare? No, posso farla? Questo non è legittimo. Posso fare una protesta? Non c'è sindacato che ti proteggerà da questa cosa. Posso fare una protesta non legittima? Non c'è sindacato che ti proteggerà in da questo. Pagato però. Pagato. Ragazzi, ma quanto cazzo è in forma Parenzo quest'anno? Allora, silenzio. Sì. Parla la nobile. Silenzio, Parenzo, parla la nobile. Ah, la figlia del sale. Silenzio, parla la nobile. Sì, silenzio, per carità. Oggi dovrebbe iniziare l'isola dei famosi, tempo permettendo. La nobile scusa insieme alla madre. Parla la nobile. Sentiamo, è importante. Io voglio partire da un discorso di discriminazione che io e mia madre stiamo vivendo oramai da tanti anni. Troppi. Le marchi discriminate, Parenzo, le marchi discriminate. Un po' esagerato questo. La nostra pena deve finire. Ma da questo punto di vista ha ragione, però, ragazzi, avete rotto i coglioni con questo moralismo. Avete rotto i coglioni. Parenzo ha detto che Doina Matei deve rifarsi una vita e non si capisce perché le marchi non se la possano rifare. Tu dici perché devono stare fuori dalla TV. Dici la TV ha portato al disastro di tante famiglie perché loro la usavano male. Certo. E tu dici che devono stare fuori dalla TV. No, ma possono fare dell'altro. Hanno aperto un ottimo ristorante, un bar, mi pare straordinario, dove non andrò mai, ovviamente, in vita mia. Ma non ti vogliono nemmeno, penso che ti diranno. Ma per carità, eh? D'accordo, un caffè qui viene venduto a 25.000 euro. Ma dici come un caffè, però, una roba che costa 0,90 in qualunque bar. D'accordo. Ma dice d'accordo, d'accordo niente, d'accordo cosa? Se non me lo paghi 25.000 euro domani morirai. Ma ci come morirai? Ma che roba è 25.000 euro un caffè? Ma che roba è? Dai, quella gente lì non deve avere più diritto. Deve stare ha diritto a rifarsi una vita. Ma non, deve stare ma zitta. Ma che vuoi perché? Ma perché sono due criminali, basta. A che cosa ci avete condannato a me e mia madre? A che cosa? A cosa siamo state condannate io e mia madre? Allora, io di questa cosa ne vorrei parlare da tanto tempo, perché una pena, ragazzi, deve finire. Una pena deve finire. Mia madre è amatissima. Ma da chi? Ma dai, ma da chi? Cioè, c'è un sacco di gente che ancora la ama. Ma figurati, ma per carità di Dio. Arrivando a veramente a poter fare qualunque cosa per difendere mia madre, perché mia madre è una madre con la M maiuscola, è una donna straordinaria, è una persona amatissima. Cioè, guarda, pare che quando la giovane nobile era all'asilo, sì, la signora Marchi rubava i ciucci agli altri bambini, poi li rivendeva. Gli rubava, cioè, i bambini che piangevano al nido, no? Lei rubava e le maestre del signore dicevano: ma dove è finito il ciuccio? Allora, questo ciuccio! E intanto il bambino piangeva: chi lo vuole deve pagarmi 10 milioni! All'epoca c'erano le lire. 10 milioni di lire! Ma i bambini che piangevano: no, dammi il ciuccio! 10 milioni, altrimenti domani muori! Fin da bambina rubava i ciucci alle compagne di classe della nobile. Allora, della c'è un piccolo caso che riguarda Carlo Conti, conduttore del Festival di Sanremo, che viene attaccato. Polemica inutile questa, mi pare. Fammelo dire, guarda, chiudiamola qua. Mi pare inutile. Anche da Salvini, in parte, e non solo, ma soprattutto dal cosiddetto web, dal cosiddetto internet. Facebook, eccetera, eccetera, perché dicono guadagna troppo, non ma so porta quanti ascolti, sono. Porta pubblicità, 650, basta, 700, che pare che però sia tutta quanta la collaborazione annuale di Conti alla Rai. Ma chi se ne frega, porta soldi, porta sponsor. Comunque, basta, 650, dai. 700, qualcuno dice è troppo. Diamola ai terremotati. Vabbè, ma che c'è una cosa, Salvini, diamo i guadagni di Sanremo ai terremotati. Ma... sentiamo prima questo. Soltanto nelle zone terremotate, tra poco comincia il Festival di Sanremo. Io chiederò ufficialmente che i guadagni che la RAI porterà a casa dal Festival di Sanremo finiscano direttamente a ricostruire case, stalle e scuole. Allora, Fiorello lo difende, Conti insultato perché ce l'ha fatta, insultato, punito perché ce l'ha fatta, rosiconi, cioè la gente rosica perché uno è ricco, il che francamente è anche vero, per carità, è vero, la gente si incazza semplicemente perché dice no, i soldi pubblici, 600.000 euro, mezzo milione, 700, non si possono guadagnare, permettete di dirmi, è una minchiata. Cioè la RAI può interrompere queste cose da un secondo all'altro. I veri scandali della RAI non sono i soldi dati a Conti, sono altri, sì, sono altri sprechi, bravo, bravo. Non i soldi dati a Carlo Conti, mi permetto di dire. Sì, bravo, preciso su questo, ottimo. Questo è il risultato, caro, del nostro, questo è il nostro paese. Quando ce la fai viene insultato perché poi ti dicono ma no, quei soldi, ma come? Chiedi 2 euro per i terremotati quando tu ne guadagni 600.000 per fare feste. Lui ce l'ha fatta e ovviamente vieni, devi essere punito. Non è come in altri paesi, tipo l'America, quando uno ce l'ha fatta diventi modello, oh ma se ce l'ha fatta Conti ce la posso fare pure io. No, non stimiamo persone che ce l'hanno fatta, non li stimiamo, mandiamoli a fanculo. Dice la gente che ce l'ha fatta viene mandata a fare in culo, ma in realtà non è che viene mandata a fare in culo dalla gente normale, è questa roba qui di prendere quello che succede su Facebook e su web come il centro del mondo. Sono quattro, spesso quattro cazzoni. Ah, meno che male hanno... lo riconosci. No, ma è vero, per carità, che si esprimono su web, va benissimo, per me non ci deve essere nessun tipo di restrizione, va bene, però non è che è come la pensano gli italiani, non è così. Gli italiani piace Carlo Conti, probabilmente altrimenti non lo guarderebbero, stanno zitti, nessuno protesta. Sul web ci sono delle piccole rivolte, chi se ne frega? Ci pensate mai alle povere ragazze del traffico che devono lavorare durante la zanzara? Poverette. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta La Zanzara. Appena uscito da un'ora e mezza di operazione, ancora sotto il sedativo, e adesso vi ascolto il podcast della Zanzara. Siamo al top. Allora ragazzi, lo sai che più critiche ci sono e più sono convinto che Donaldone, certo, qualche cosa magari è stata sbagliata, eccetera, eccetera, più sono convinto che è buona questa cosa qua, anche mediaticamente. Ma sulla base di che cosa? Anche mediaticamente, soprattutto dal punto di vista della comunicazione mediatica, è fortissima questa cosa. Chiudo le frontiere per 3 mesi a ma 7 paesi. Ma non ha chiuso nessuna frontiera? Beh sì, non fa entrare più no, abitanti di 7 paesi, quelli che hanno il passaporto di 7 sì, paesi. Sì, quelli di paesi notoriamente poverissimi, certo, con cui non c'è Siria. Un interesse... con cui non c'è un interesse diretto degli Stati Uniti. Ragazzi, del commercio. Più tutti sono contro Trump e più sta, come era in campagna elettorale, più state certi che sta facendo bene, secondo me. Quello è un parametro, no, ma è fondamentale, curioso, fondamentale. Diciamo. Più tutti sono accaniti contro Trump, più è certo che sta facendo bene. Vi ricordate durante la campagna elettorale dicevano sessista, porco, razzista, pezzo di merda, infame. Beh, sessista sicuramente lo è. Verrà cacciato dalla candidatura, ti ricordi? Verrà cacciato sì, dalla candidatura. Ha vinto in carrozza con i cavalli bianchi. Adesso dicono cadrà tra qualche mese, no, tutti contro di lui. Cadrà? Ma che cadrà? Vergogna, purtroppo la Silicon non cadrà. Valley! La Silicon sì, Valley! Beh, certo. Certo, per forza, quelli là, che eccetera. Ma è no, normale, perché no? Dove c'è più cultura, più sì, progresso, più, cultura. Più intelligenza, sì. Più lì il melting pot è più facile. Comunque, che ragazzi, si realizzi. Io sono curioso, no? Cioè, il grande pubblico, il grande bobolo della Zanzara questa ma sera dai. Sta facendo bene o è solo una mossa mediatica, una cazzata? Anche quelli trampisti possono rispondere su questo, eh? Anche i trampisti possono essere scettici. Nicolò, Firenze, vai. Nicolò, dimmi. Grande Ruciani. Dimmi. No, io telefonavo perché anch'io volevo dare il mio supporto al Donaldone americano, sì. Perché secondo me ha fatto una grande mossa, molto intelligente, molto perché? Tattica anche. perché vedi, i problemi vanno eliminati alla fonte. Là, fra l'altro, c'è anche la pena di morte. Quelli vanno lì, fanno le cazzate e dopo sono costretti a ammazzarli. Invece se ne stanno buoni nel suo staterello musulmano del cavolo. La pena di morte c'è in alcuni stati in America, non è che c'è dappertutto. Comunque si fa per dire. Ma perché ha fatto bene? Perché poi un'altra cosa, ora Dio mio. I nostri nonni, quando c'erano nazisti e Mussolini in Italia, sono rimasti qui a combatterli, non che sono scappati. Non tutti, purtroppo. Anche i signori siriani, iracheni, eccetera, che stiano a casa loro a combattere l'ISIS di cavolo lì, non che vengano a qualcuno casa lo fa l'estate. E infatti finisce anche in galera incarcerato qualcuno, non è che sono venuti tutti qui da lei. No, e invece stanno venendo non tutti, sono perché... venuti tutti da lei. Vabbè, fermare Niccolò. L'ingresso per qualche mese a persone provenienti da 7 paesi muslim, dunque non tutti musulmani, perché poi i musulmani ci vengono anche da altri paesi, cioè per cui bando nei confronti dei musulmani, poi bisogna vedere, perché ci sono musulmani che arrivano anche da altri paesi e possono tranquillamente, come hai visto, entrare in America. Per te è giustissimo. Porca miseria, sei giusto, bisognerebbe farlo anche in Italia, cioè, ma non certo, solo di ti ha fatto godere come un pazzo, Donaldone. No, da morire, guarda. Con la penna, lì, con la penna, tu tronfio, no? Con la penna che firma che scrive cose lui, che non sa, consigliate da gente che non ha mai governato. Politici, a differenza dei nostri politici, lui non è ipocrita. E lui dice le cose come le stanno, io questa gente non ce la voglio. Ma ha dovuto rivederlo il piano stesso che ha fatto dopo poche ore, ha dovuto rivederlo. Sono dettagli per lui, dettagli, certo. Fa quello che dice. Anche noi dovremmo chiudere qualche ingresso a qualche paese. Chiudere tutto, bisognerebbe cominciare a chiudere questa trasmissione, te lo dico io, altro che le frontiere. L'unica roba che c'è da chiudere è questa trasmissione. Quando arrivavano gli albanesi, ovvio. Albanesi. Alan, sentiamo. Cosa c'ha con gli albanesi? Cosa c'ha con gli albanesi adesso? Cosa c'ha con gli albanesi? Cosa c'ha? Alan da Bologna. Ricordati la storia del grande Uljan Sharka. Com'è ancora? Ricordi la storia di questo grande imprenditore albanese. Buonasera. Dimmi Alan, ecco Alan, avanti. Ti vedo così entusiasta di Trump, il tuo amico. No, entusiasta, no? Sto lì, osservo tutto questo coro, io non sono razzista. Razzista sarà tuo padre o tuo figlio. Dimmi. Si può parlare, no? E interrompi sempre come la Santanchè. Ma ascoltami, io veramente la Santanchè... Ascoltami bene. Guarda, a me è bellissimo il discorso di Trump, ma anche al contrario, nessun americano deve andare lì a rompere i coglioni nelle terre dei musulmani. Sono 300 anni che i musulmani subiscono, gli occidentali, gli americani, l'invasione. E dunque che dovrebbero fare? Impedire agli americani di andare in giro? Ma già, nessun già. Nessun americano, nessun italiano va in quei paesi lì. Perché senza il petrolio arabo, si ferma tutto. Vabbè, Alan, mi pare di capire che non sei molto favorevole a questo provvedimento trampiano. Io sono d'accordo, ma tutto al contrario. Gli americani bloccano, chiudono, gli europei chiudono, anche gli arabi, come ha fatto l'Iran, ha chiuso con gli americani. Comunque, ragazzi, la prova provata è la prova provata del caos, caro Parenzo. Bellissimo il caos. Quello che avevo previsto io, il caos. Sono entusiasta del caos. Oppure, come mi suggerisce un mio amico, dividere per comandare. Dividere per comandare. Divide tibera, no? Stupendo. Alberto Milano, vai Alberto. Ciao, ascolta tutta la vita Donald, perché finalmente un non politico che governa e che fa quello che dice. È stato votato sul suo programma in cui era ben chiaro cosa voleva fare. Chiaro, sì. Per cui va avanti per la sua strada, giusto o sbagliato che sia. Poi non è chi è che la pensa al contrario, Donald Trump è più intelligente di chi è favorevole. Così. Abbiamo cominciato tutti a pontificare da due giorni, esperti di immigrazioni, esperti di leggi, esperti di tutto, il razzista Trump non funziona, le rivolte dell'aeroporto sono coinvolte qualche centinaio di persone, guardate il volto di queste persone bloccate all'aeroporto, sì, qualche piccola cosa è successa come tutti i provvedimenti. E infatti siccome quello è un paese civile c'erano già tutti gli avvocati, perché in America il sistema funziona, appunto. Gli avvocati dei diritti civili che gli stanno facendo un culo così a Donaldone, i capelli bianchi gli fanno lì all'aeroporto già pronti col computerino col computerino così a fare ricorsi. Il giudice non c'è la dittatura, non c'è la dittatura, ma chi ha parlato di dittatura? Ci sono i giudici. Ma quale dittatura? Sentiamo Alberto, gli avvocati dei diritti civili, che mi sembra molto trampiano. Alberto, no? Mi sembri molto trampiano tu, no? No, mi sembra uno che è stato votato in modo democratico su un programma che si sapeva e per cui sta applicando quello che aveva detto. Sì, ma le sta facendo pure male. Vediamo, ma vediamo. Cosa vuol dire? Le fa pure sbagliate anche con cittadini americani. Ma non puoi revocare la green card a uno che ne aveva diritto, ad esempio. Ma che dice? Ma scusa, ma dall'Europa come possono dare lezioni sull'immigrazione? Dall'Europa. Dare lezioni sull'immigrazione. Dicono che è una cosa folle, no? I leader europei tutti a dare lezioni dall'Europa. Certo, che dovrebbe essere un impegno di tutti quello di farsi carico del tema della migrazione. Questo è ovvio, Johnny, no? Piacenza, Johnny, vai Johnny. Vai Johnny. Oh. Johnny. Tu Alberto, Francesco, Bari, vai. Tutta sta gente, no, Giuseppe da Roma, Giuseppe da Roma, dai. Ma perché Giuseppe. Sta gente chiama e non lavora? Perché? Vai Giuseppe, dimmi. Eccomi. Allora, io volevo invece criticare quello che sta facendo Trump, ma più che altro che sono gli americani che hanno la faccia come il culo, perché creano l'ISIS, fanno un casino, creano una crisi internazionale mondiale, e poi che fanno? Prendono e chiudono le frontiere, cioè sono cazzi vostri, ve la cavate da soli, cioè è incredibile. Eppure la Silicon Valley, che fino all'altro ieri sfruttava questi disperati che insomma venivano pagati qualche dollaro per lavorare e fare prodotti che poi vengono venduti allora? In tutto il mondo a prezzi esagerati, c'hanno la faccia come al culo, perché il problema l'hanno creato loro. Dovrebbero aprire le frontiere e dire sì, abbiamo fatto una cazzata, abbiamo creato questa guerra che non a me fanno incazzare le multinazionali contro Trump, che sono le prime che vanno nel mondo a sfruttare il lavoro, eccetera. Si spostano dove c'è e poi criticano uno perché blocca per 3 mesi le frontiere per 7 paesi. Dai, insomma, queste proprio le multinazionali non dovrebbero parlare mai di un cazzo, perché comunque non è che perché alcune no hanno cominciato a parlare contro Trump, Parenzo, non no? È il caso di Starbucks. Dai, su. Non è il caso di Starbucks. Vediamo dove prendono il caffè o altri prodotti. Andiamo a vedere. Ma quale top? Ma quale top? Questo è un po' stribolo di mentecatti. E io ci sguazzo benissimo. Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan e Leonardo Manera ti aspettano domenica 5 febbraio al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Platone, la caverna dell'informazione. Il lato comico dell'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. La Zanzara. Quando un mese fa scrissi la mia letterina di Natale, pensavo proprio a questo. A una zanzara ricca di puttane, di docce non fatte, di pisciate nel lavandino, di capelli non lavati, di un Parenzo insultato costantemente e di ascoltatori meravigliosi. Ora so che Babbo Natale esiste. Semplicissimo, se volete parlare dei filetti di merda di Sgarbi, o volete indicarci qual è il miglior combustibile per il rom, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 0024. Se invece volete parlarci delle emorroidi dei froci, o volete chiamare negro qualche profugo, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al top. Allora ragazzi, pronti, Parenzo? Sì, c'è sempre qualcosa in questa sigletta che non mi torna, ma andiamo avanti. Allora, proprio poi il cos'è. Nostro ministro degli interni Minniti sembra Salvini. Domenico Minniti. No, io ti dico perché c'è una grande ipocrisia qui in Italia che è pazzesca. Allora, le ultime frasi di Minniti me le sono segnate. Sui tempi degli accertamenti. Fuori, no, ha detto così, fuori innanzitutto tutti gli irregolari. Fuori tutti gli irregolari, ha detto. Chi non rispetta le regole deve essere allontanato. Beh, infatti lui ha fatto il nuovo accordo con la Libia, lo ha firmato. Chi non rispetta le regole deve essere allontanato. Sì, ma infatti se tu lo dicevi qualche mese fa o qualche tempo fa, chi non rispetta la regola deve essere fuori tutti gli irregolari. Ma non ha detto semplicemente così. Infame. Ha detto una cosa di assoluto buon senso. Cioè ha detto che vanno firmati gli accordi con i paesi per il respingimento. Ma non ripetere l'ultima parola. Non ripetere l'ultima buon senso. No, non ripetere l'ultima. Poi ha detto anche un'altra cosa. Sentiamo. Ci vuole meno tempo per decidere lo status di rifugiato. Ma ci mancherebbe altro, questo abbiamo sempre detto tutti, non c'è dubbio. Una cosa di buon senso. Ma mortacci due, sei stata una vita a dire che ci vuole tutto il tempo per decidere se uno è rifugiato. No. Adesso invece si accelerano le procedure, meglio per, meglio per i rifugiati stessi, no? È chiaro, per è meglio per loro che gli si dà uno status, finalmente gli si dà uno status. Comunque, definito, ragazzi, e non li si lascia in balia dei razzistelli. Qui c'è un padre di una vittima, lo ricordate, no? Alessio Feniello, padre di Stefano, morto all'hotel Rigopiano, incazzato come una biscia. È andato Sce D'Urso, cioè nel programma pomeriggio, anzi no, domenica live della signora D'Urso, incazzatissimo con tutto il mondo, in particolare con un ospite che era lì, che era il sindaco del paese vicino all'hotel Rigopiano, come si chiama? Ferindola, una cosa del genere. Farindola, il sindaco lì. Era incazzato come una beva, sentite. Lei è una persona inutile, lei è inutile, lei ha fatto salire mio figlio, mi ha detto. Lei l'ha fatto passare, gli ha dato strada, lei era a conoscenza di tutto, lei è inutile come persona, lei deve cambiare mestiere, non mi stancherò mai di dirlo, lei è inutile, è inutile, è inutile. Lei ha portato mio figlio lassù, dopodiché avete scortato altre 10 persone voi in montagna, con l'appoggio dei poliziotti, avete montato le catene alle persone per farli salire su, le avete portate a morire, vi dovete vergognare, perché siete persone inutili. Qui non si capisce se se la prende col sindaco che ha favorito l'arrivo dei turisti all'hotel Rigopiano, però io non mi permetto, cioè avrà pure tutte le ragioni del mondo perché gli è morto il figlio, però è normale che uno viene, come dire, se uno vuole andare in vacanza, vuole andare in albergo, è vero che c'erano gli avvisi di maltempo, però viene aiutato ad arrivare in albergo, c'è tutto l'interesse a far arrivare in albergo, no? Comunque, vabbè, sentiamo. Quello che è successo è una tragedia per tutti, ma non credo che abbia delle responsabilità oggettive. Oh Gesù, mi sta dicendo che la responsabilità è la mia allora? Ho ammazzato io mio figlio e le altre persone? Cioè, lei non è responsabile di niente, mi sta dicendo. Cioè, ma lei prende le tasse da quell'hotel, mi faccia capire, mi avete fatto un fiore all'occhiello per quel paese. Vi dovete vergognare, ma ve lo prometto e ve lo ripeto. Io, finché ci avrò vita, vi farò passare i guai. Voi con me non la scamberete, non la passerete liscia. Questo ve lo potete mettere in me. Mi venderò tutte le proprietà. Vado a dormire alla stazione di Pescara, lo ripeto. Ma io finché c'ho forza, l'ho promesso a mio figlio, vi faccio passare i guai. Le avete uccise, vi dovete vergognare. Volevo vedere se c'era suo figlio lassù, se c'era il figlio del prefetto, se c'era il figlio del presidente della regione. Cosa avreste fatto per recuperare quelle persone? Ma non vi vergognate di andare in televisione. Vi dovreste vergognare anche di esistere, vi dovete vergognare. Io parlo a nome e per conto di tutti quelli che sono morti lassù. Questo bisogna vedere, naturalmente. Cioè, lui dice: se ci fossero stati politici al posto delle persone comuni lì in albergo, avrebbero fatto l'inferno per recuperarli. Questo mi non permetto, credo. Mi permetto di dire che secondo me non è così. Al netto del suo dolore, però, ovviamente. Detto questo, Riccardo da Roma. Riccardo, ciao. Ma chi è quel Riccardo lì? Penso di sì. Quel Riccardo, mamma mia. Si capisce già dall'inizio. Mamma mia, lui è mai. Dell'ipocrisia. Su chi, Riccardo? Riccardo, no, non mi riferisco accolto al signore come della telefonata di adesso, capo per di carità. Stato, quello è lo dolore di un padre, lo strazio meno di un male. Padre che merita rispetto. Meno mamma male, mia. Meno male. Sono mamma chi scioccato. No, io parlavo è su scioccato. Trump, parlavo Riccardo su Trump, Roma su è scioccato. Ah, Donald, allora? Su Trump è il festival dell'ipocrisia totale, cioè tutti, chi è che lo difende? Tutti i globalisti milionari, oggi leggevo il capo di Uber, multimilionario, sì. No? Ha detto che è scandalizzato dalla decisione del presidente Trump. È vero, molti ricchi, molti cioè, ricchi lo difendono. Il capo di Uber, ma ci rendiamo conto Uber cosa fa? No? Sapete la quota che finisce ai guidatori e la quota che si prende Uber? Tra l'altro Uber devi pagare solo con la carta di credito, quindi anche lì, no? Il cioè, circuito tu dici, Trump... delle banche, delle multinazionali, delle transazioni finanziarie con il valore dopato. Ma cioè, è comodissimo è pagare con la carta di credito del banco, ma per credito. Ma cioè, che non dici è scandaloso, è comica. È comica. Cioè, praticamente Trump che cosa fa? Lui fa un provvedimento... dove dice per 90 giorni per me questi paesi ci stanno i terroristi, sono a maggioranza, non ha detto che sono islamici e allora non entrano, ha detto questi sono paesi governati o dove c'è una fortissima componente di terroristi nelle aree di governo, di comando, eccetera, quindi Saudita, io non accetto niente, persone da questi paesi per 90 giorni, che è una cosa di un buon senso assoluto. E tra l'altro è una cosa che Obama aveva fatto anche in passato, sia pure in termini diversi, poi si metterà a Parenzo a fare ma il costituzionalista non si mette a fare nessun costituzionalista americano. No, però è diverso, perché alla fine ha fatto pure Obama tale quale, invecchiato, però lo fa Trump e Hitler. Perché dice che è invecchiato, come il discorso Riccardo di Minetti che stavi dicendo prima, è no? Invecchiato, te lo diceva Riccardo Salvini, ripartiamo tutti gli irregolari, Parenzo, nazista, fascista, no, invecchiato, invecchiato. Che schifo, lo dice Minetti, e fa... invecchiato, invecchiato. Siamo messi così. Ma perché dici che è invecchiato? Invecchiato, non ho capito. Invecchiato ormai, si è spento. Ma perché sono invecchiato? Ma sono invecchiato perché non ti mando a fare in culo? Ma non ti mando a fare in culo perché mi fai pena. Cioè, invecchiato. Sono invecchiato perché non sbrocco, non ti insulto. Meglio, invecchiato. Ma invecchiato, non ormai è stanco anche lui. Ormai, dai, hai ormai è stanco. Anche la credibilità, hai capito? Prima facevi il pagliaccio, facevi i imitavi Grillo. Sta parlando il grande economista Stiglitz, Riccardo da Roma. Manco quello. Stiglitz da Roma. Abbiamo in diretta Stiglitz da Roma, perfetto, Riccardo da Roma. Ma perché? Ecco. Non ho capito. Ma perché? Ma che porti Stiglitz? Ma che ti hanno fatto? T'hanno cambiato, cioè, t'hanno cambiato il catetere, che ti hanno fatto? Io sei in corsia? Sei invecchiato, c'è il problema della prostata. Donaldone, uno che sei ti difende, Donaldone, lui difida degli islamici, degli invasati, tu sei ebreo, te l'ho già detto una volta questo, sei pure ebreo, chiedi agli amici tuoi a Israele come vivono con questi. Lui difida degli islamici, e il Qatar, e l'Arabia Saudita, e il Qatar, niente invece, il Qatar. Militarizzati, per non farsi sopraffare da questi, e tu invece gli vorrà pure il culo, vai, bravo. È invecchiato. Vai a te culo, sì, fai lingua in bocca con loro, vai. Eccolo qua, un po' si è svegliato, è invecchiato ormai, poverino. C'è un po' ringalluzzito perché c'era Trump, è vero che molti, Trump E molti mi dicono, come dice Riccardo, beh, ognuno si difende come vuole. In Israele c'è star muro, questo qua si incazza con sette paesi, mette il bando per tre mesi per sette paesi. Il blocco dei rifugiati, non è vero, è tutta una cazzata. Ci stanno raccontando adesso. Leggo. Ma hai visto chi è che si è mostrato offeso? Google, sì. Zuckerberg, la Apple, Jeff Bezos, cosa vuol dire? Le celebrities di Hollywood, è bravo anche l'inglese, bravo, studiato un po', bravo. Questa è tutta gente che ha ben altri problemi, capito? Non è della working class, non è gente che va lì a farsi il culo 8 ore al giorno, 12 ore al giorno. Questa ancora è tutta gente alla Parenzo, casculato, sbarca al lunario così, dice quattro cazzate, no? E allora sta lì a mangiare il patanegra, a casa della contessa. No. L'ho già detto una volta, lo ripeto, gli islamici per questi sono i camerieri, i servitori, i lavapiatti, quello che gli fa sì che la reception, il concierge, no? Il concierge si dice. Quello che sta concierge, si dice, però, sono gli schiavi, è come nell'impero romano che c'erano gli schiavi, no, questo è il nuovo schiavismo del millennio. Vabbè, senti, ecco, quando hai finito mi porti la bibita ghiacciata, Riccardo, per cortesia, va? Vogliono appena tutto finito di parlare mi porta una bibita ghiacciata, per cortesia, che la Silicon Valley ci sono le persone più intelligenti. Beh, sicuramente laureati, certamente. Mi porti per cortesia un Bloody Mary? Fammi portare la razza ariana intelligente, ma che vuol dire sono intelligenti? Ed essere intelligenti ed avere studiato al MIT, al Massachusetts, e lavorare a Silicon Valley ed essere dei coglioni. Si può essere dei muratori. Hai fatto la tua cosa, portami un Bloody Mary ora, però, per cortesia. In coppia con Cruciani ed essere dei perfetti coglioni. Non è che l'intelligenza, va bene, dai. Dipende. Adesso hai parlato. Un martini ghiacciato, ve lo può portare al tavolo, per cortesia, adesso. Ha ragione Riccardo su questo. Su questa ragione Riccardo. Dai, su, ma tu hai detto quelli più intelligenti sono contro. No, ho detto la Google, no, chi è che questi qua? Nike, che dir si voglia, che è contro Trump, questa no, cosa qui, ho detto a favore, un'altra eccetera. Cosa, che chissà dovrebbero come andare mai a guardare dove producono o dove hanno prodotti nelle loro metropoli, tipo dai. Los Angeles, San Francisco, New York. Il problema della migrazione è molto meno sentito, perché guarda caso ci sono posti di lavoro nei quali lavorano a diversi livelli gli immigrati, ma per ma cui possono essere adesso? Sia ai vertici delle società sia a ma livello intermedio. Ma nessuno vuole impedire gli immigrati di andare in America. Integrati. Ma nessuno sta bloccando le città, i comunisti, guarda i liberal, i comunisti di cui Parenzo è portavoce sempre, sono le persone. Tu prima hai detto una cosa, vabbè, che ci hai detto il caos, ti piace, dai, il caos. Adesso hai fatto, certo, la tua cosa, mi puoi oggi portare una bibita ghiacciata, per cortesia? Il caos l'hanno fatto le Hillary, vabbè, le Killary, gli Obama, i globalisti, l'Europa della America è sempre a rimorchio, hai visto Agulona oggi, no? Oh! La colonna che ha detto è scandaloso quello che ha fatto Trump. La nostra tradizione è contro. Veramente mi pare che la tradizione tua, che c'ha la foto di tuo nonno nazista ancora sul comodino, fosse quella di mandare i carri armati in giro a serena a tutti, no? Fino a prova contraria. Ma che questa debba dare lezioni al mondo di solidarietà e di altruismo, mi sembra veramente un caso di fatto che la Merkel è diventata da solidarietà e altruismo al mondo, cioè fa ridere, no? Fa ridere. Cioè la Merkel avrebbe queste cazzate. Ecco, sono la regia, liberal, ma sono perché i fammi capire, fatemi capire. Dicono, no, adesso, secondo questo demente la signora Merkel avrebbe la foto di Hitler, questo demente no, ha detto che il nonno della signora Merkel sicuramente se non era stato fatto fuori era nazista. Questo guarda, non lo conosco, ma è poco ma sicuro. Cioè quelli hanno tutti le foto dei nonni e dei bisnonni di quelli. Stanno tutti che hanno divisa, tutti col braccio alzato. Non mi venite a dire cazzate. Poi va in Germania, io ogni anno vado in Germania per lavoro, ci vado tutti gli anni per un breve periodo. Va in Germania, il nazismo. Ma che cos'è? E chi lo conosce? Non sa nulla. Non sappiamo neanche cosa sia. È punito per legge. Ci sono delle leggi severissime. Somaro, don Somaro. Allucinante. Ciao Riccardo, ciao. Sono drogato di zanzara. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da. Perché nessuno mi ha detto che Zucchetti fa software anche per grandi aziende? La zanzara. Hey, oh, let's go. 19:35, sono in macchina, sto ascoltando la trasmissione e mi viene l'idea del cazzo di chiamare mia moglie, la quale in 3 secondi netti mi fa girare i coglioni che non ne hai un'idea. Crucia, rimettimi di buon umore, va? Ti voglio bene. Tornato Lemme, caro Parenzo, è tornato Lemme contro i ciccioni dalla D'Urso. Mentre il mondo è impegnato a discutere su cosa fa Donaldone Trump, Lemme continua a essere convinto di aver trovato la cura miracolosa non solo contro la ciccia, ma anche, come sapete, contro il cancro, il diabete. Sì, è sicuro di essere un genio. Intanto l'ordine dei farmacisti pare che abbia aperto una procedura contro il signor Lemme. Il sindaco di Desio, il posto in Brianza dove abita, pare che gli voglia fare un mazzo così su alcuna concessione. Ma perché? Ma che t'ha fatto? Avanti tutta a verificare. Ma che t'ha fatto di male Lemme? Dai, comunque. Ma no, anche fosse solo per le giacche che mette. A domenica live va in onda il solito teatrino meraviglioso. Lemme contro i ciccioni. Prima la Rinaldi, femmina, essere inferiore, poi Platinette. Risentiamo tutto. In breve tempo, quando hanno smesso, li hanno tutti recuperati. Stai zitta, zitta, sto parlando io, le sono contente. Femmina, essere inferiore. Non si può continuare ad accettare una persona del genere. Lemme, guardami. Non si può. Guarda, ti faccio dire tutto, però. Però questo non mi va. Chiedi scusa. Hai davanti una donna. Finché si gioca, si gioca. Non mi va. Chiedi scusa. Io non ho capito, la D'Urso dice a Lemme, dopo che l'ha invitato per 10 mesi consecutivi a dire di tutto sulle donne, questo non te lo permetto. Come questo non te lo permetto? Hai 7 mesi che va a dire alle donne sono inferiori, testa di donna, per non dire testa di cazzo, eccetera, eccetera. Che imbecille, ma che no, Lemme. Ma è roba incredibile. No, ma sto Lemme, dai. Ma ho capito, ma questo non te lo permetto. Certo, ma gli hai detto le peggio cose, hai detto in 7 mesi, dai. Devo chiedere scusa a chi? Alle donne. Dillo. Immagino che lei chiedo scusa alle donne. A tutte le donne. A tutte le donne. Basta, bene, non lo dire più. Almeno non lo dire più. Non lo dire più, no. Non lo dici più qua. Andiamo avanti. Testa di donne. Stai facendo una terza media. Terza media. E ci danno lo spazio. E ci danno lo spazio. Perché me lo meriti. Ma, e tu dove stai? Tu devi stare. Tu dove devi tanto stare? A me non mi offendi, non ti preoccupare. Ti piace. Ma non c'è bisogno di offendere, già offesa la natura. Sei nata così. ti ha offeso la natura. Lemme contro la Rinaldi, Lemme contro Platinette. Altro classico, altro format. Che gente. La cosa è stupendo, lo trovo stupendo. Lemme. L'anoressia e la bulimia hanno bisogno di una consulenza psicanalitica. Non è vero, tu hai bisogno di bisogno ma l'anoressia. Ci sono delle Fidati. Ragazze che si sono uccise, lei non Fidati. Lo sa. È un problema, è un problema ormai, che va affrontato nel top. Oh, ci sono ricerche, non con i suoi spaghetti. Ci sono ricerche, ma, ma capisce che non si può parlare con lei? Sono problemi che portano anche purtroppo al suicidio. Quindi lei è uno psicanalista adesso. No, io curo col cibo. Ma si vede. È uno squilibrio ormonale. Non è ma non è uno squilibrio ormonale, è uno squilibrio di comportamento. Che cavolo ne sai del problema che ha generato la bulimia in me? Cosa ne sai? Cosa ne sai perché in un anno sono ingrassato 50 kg? Cosa ne sai? Non riesco a parlare con uno psicanalista. Vengo a parlarne con te. Allora ragazzi, andiamo a... dove andiamo? A... Filippo Carbonia, vai, vai, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Ciao. Igiene personale, sì. Più precisamente bidet, visto che ogni ragazzi, tanto... comunque, secondo la CNN, i sette paesi a maggioranza musulmana che sono stati scelti da Trump... Nella lista nera nella di lista Trump, di sì. Trump, erano stati identificati inizialmente come paesi of concern, cioè paesi di cui preoccuparsi, dall'amministrazione Obama. Ma, infatti, solo ma nessuno mette no, ma ti... poi lui io non ho poi messo, quello io metto ha fatto un provvedimento forse mediatico, esatto. Forse mediatico, no, ma non solo. Vedremo. Ha messo dentro delle persone ma che avevano la green card, cioè avevano ma già diritto ha, a rimanere poi ci ha ripensato lì. Poi ci ha ripensato, ma cosa vuol dire ci ha ripensato? Ma dopo due non ore che... dai su ragazzi, dopo due ore il razzista Trump, questa è la cosa ridicola, capito? Se uno vuole difendere a modo suo, poi giudicheranno gli americani la propria nazione, il razzista Trump, dai, siete patetici, ridicoli. Il tuo amico Gad Lerner che ha detto da ebreo qualche cosa nella storia, purtroppo la storia potrebbe ripetersi. Beh, il dramma, cioè ha raffigurato Trump il come dramma, un nazista. No, ma e è questa un, la vergogna. Trump un come nazista, un nazista. Sì, la storia un si ripete. Come si no, ripete la in farsa la storia. Si ripetono gli steccati, si ripetono le discriminazioni. Dai. Quello sicuramente. Anche qui? Oggi ci sono discriminazioni in Italia, qui? Mi pare chi evidente. C'era qui? Chi c'era? Filippo da Carbonia, dai. Sì, Filippo, dai, dimmi. Sì, no, diceva appunto, ma a proposito di idee, igiene personale. Sì. Una domanda, una curiosità. A proposito di tue parole, di igiene personale. Sì, sì, sì. Esatto. Vai, vai. Sì, questo tema. Sì, il bidet. Possiamo iniziare il bidet? Sì, il bidet, sì. Faccia al muro o spalle al muro? Questo è importante. Perché sembra una banalità, importante. Però... Questo è importante, questo è buono. Sì, sì. Guarda, il bidet io di solito lo faccio come i maschi, con le spalle al muro, devo dirti la verità. Con le spalle al muro, sì. Sì, Parenzo, sì. Tu come sono fai? D'accordo. Cioè? Guarda, non so se è un tema di interesse no, nazionale. No, ma per sapere, non mi pare una cosa molto di... intima, la posizione. La posizione. Io sì, di solito mi metto spalle al muro e comincio a ravanare sotto. Però Guardate, solitamente io spalle, facendo spalle la doccia, no, dico, facendo la doccia tutte le mattine. Non hai bisogno di farti vedere. E appunto, diciamo, espletando le altre vabbè, funzioni capito, sì. Al mattino, io in genere faccio insomma. Quando sono in trasferta, sì, però faccio la doccia due volte al giorno, la mattina e la sera. Rispondi, quando fai il bidet, come lo fai? Con le spalle al muro o con la faccia? Non è una location che ho mai, non ho una regola fissa, diciamo. No, ecco, ma diciamo a istinto, dove vai? Con le spalle oppure di fronte? A istinto, no, perché vedo, ecco, vedo già libero. Scandalo alla Zanzara, Parenzo fa il bidet, spalle al muro. Ecco la foto. Quale foto? Quale sciocca la Zanzara? Cosa dite? Vabbè, ma come cosa lo fai? Dite? Bidet, ragazzi. Ecco, ad esempio, un mio amico di Milano dice: io spalle al muro, non dirò il nome perché è abbastanza autorevole. Io spalle al muro. Io spalle al muro, ma non certo, posso dire normale, il nome perché ora è un incarico istituzionale. Ma davanti, cioè chi lo fa con la faccia rivolta verso il muro sono le donne che devono guardarsi un po' là. No? Però è un tema, indubbiamente. No, mi aspetto già un sondaggio su Libero domani. Come fate voi il bidet? Va bene, va bene. Non lo so. Cruciani, spalle al muro. Sì, sciocca la Zanzara. Anzi, no, Parenzo, lo faccio poco. Scandalo, sì. Ma non è vero, faccio tutti i giorni la doccia. Resta la però merda attaccata così. Sì, sì, sì, così. Libero fa così. Costantino dalla provincia di Vicenza, sì, dai. Sì, sì, sì. Costantino. Zozzone radical chic, ecco qui. Zozzone radical chic, ma dai, ragazzi. Costantino, dai, ragazzi. Comunque, ragazzi, le poche volte io faccio il bidet, le poche volte perché sì. Uno non è che lo fa quattro perché volte al giorno. Tu non sei uno quando vai a fare il bidet, lavarsi. Si passa automaticamente dal cesso al bidet, cioè dal water al bidet, in un batter d'occhio, anche lasciando sotto tra il water e il bidet, sotto c'è uno spazio, no? Lasci sotto sempre qualche goccina che cade, oh, passi da lì, tac. ti sposti un attimo di cosa e ti metti lì e Ravani sotto lì con le spalle al muro. Quelle donne che devono dormire con te, ma perché ti devi mettere di fronte al muro? Cioè, no, è impossibile mettersi di fronte al muro. Come fai? È roba da malati, dai. Cioè, perché dovresti scegliere la location mettendosi con la faccia al muro? È impossibile. Cioè, passi dal cesso al bidet in un batter d'occhio. Costantino, vai. Ciao a tutti, buona serata. Sono assolutamente a favore di Trump contro questa ipocrisia generale dei meno media. Meno male che ha chiamato, così abbiamo anche il suo parere. Sì. Come avete appena accennato Cruciani, la lista dei 7 paesi è stata già redatta dall'amministrazione Obama. Quindi no, ma guarda, tra l'altro Costantino, tra l'altro, al di là di tutti i dettagli, gli errori che si possono fare, eccetera, a me quello che scandalizza è l'ipocrisia generale. Sembra arrivato il razzista Trump contro i profughi. C'è una normale critica. Ma che normale critica? Lo fanno passare come un nazista. Ma Obama, dai, vergognatevi. Obama quando è stato eletto. Ma che dici? Obama quando è stato eletto, qualcuno addirittura su Twitter ha cominciato a fare una campagna dicendo che era islamico. Osama, ma sì, ma frange chiamava... minoritarie, dai, frange minoritarie, frange minoritarie, sì, come fai tu adesso, frange minoritarie. Appena dai, è stato eletto lo hanno dai, ma è cosa che dai, quando qualcuno... dai tu, è che appena è stato eletto Obama lo hanno massacrato, quando quindi qualcuno... Trump si prenda la sua giusta dose di critiche, carità, no? Ma quando qualcuno decide, purtroppo, siamo allergici al fatto che qualcuno decida, capito? Ma non è vero, ma siamo anche Obama decideva di fronte come. Obama ha fatto una riforma sanitaria straordinaria. Tanto la stanno per cancellare. Che questo demente vuole smantellare pezzo a pezzo. Voglio vedere la cosiddetta working class. Ha vinto. La classe operaia che ora l'ha votato, che cosa dirà quando vedremo, si troverà a dover pagare tra il sistema sanitario americano? Tra quattro anni vedremo. Anni sarà il Red Rationem con questo qui. Matteo Salvini con noi, buonasera. Ecco. Buonasera. Un come andiamo? Aosta. Bene. Aosta. Allora, ragazzi. Piano di stambecchia, Aosta. E come piano di stambecchia? No, stambecchia animale, vuol dire, non cornuto. Il pieno di artigiani, perché c'è la fiera dell'artigianato, 1200 tutti italiani. Con prodotti italiani. Beh, artigiani e ci sono pure. Pensano di essere valorizzati. Ci sono un sacco di cose pure dagli artigiani. A mungere le mucche ci vanno gli indiani, ma non importa, insomma. Dai. Ma dove vanno a mungere? Il tuo sogno è avere gente schiavi sottopagati ma che facciano concorrenza ai lavoratori italiani. Non fanno i lavoratori italiani, sono i primi che assumono gli indiani perché sono i migliori perché nel trattare. Gli italiani non vogliono fare alcune cose. Esatto, tra l'altro. Che quindi gli italiani nelle stalle in questo italiane. Momento farebbero qualsiasi tipo di mestiere anche con la laurea in tasca. Dici? Ma guarda, fate un filo diretto al di là del bidet, del dibattito affascinante sul bidet spagnolo. A proposito, lei onorevole, come lo fa? Così la togliamo subito dall'imbarazzo. Chiedete di mandare degli sms su gente che farebbe qualsiasi tipo so di questo, lavoro sì, non lo so. Fatto sta che nelle stalle di Sondrio, di Aosta, eccetera, ci sono immigrati che fanno quel lavoro lì. Quindi quanto vengono una pagati? Ragione. Ma penso diglielo ai padroncini, diglielo ai padroncini, agli agricoltori, diglielo agli agricoltori, tuoi amici, diglielo ovviamente. Gli agricoltori che conosco io li pagano tutti in regola, ovviamente, quelli che conosco io, però. Quanto? Li pagheranno il prezzo di mercato, ovviamente. Meno degli italiani, evidentemente. Allora sono tutti truffati. Allora stai dicendo che sono dei banditi gli agricoltori che sottopagano gli operai stranieri. Gli agricoltori sono strozzinati da un prezzo del latte, da un prezzo del grano. Pagano in nero questi qua sotto i livelli della legge. Ma ragazzi, ma qua il lavoro è un valore che va pagato. Ma se noi vogliamo avere centinaia di migliaia di schiavi da sottopagare, non facciamo l'utilità. Ma non sono gli schiavi, nessuno, ci sono un sacco di cingalesi, di indiani che lavorano nelle stalle e sono apprezzatissimi come grandi lavoratori. Va bene, va bene, va bene. No, ma è così, vai a Sondrio. Senti, io voglio capire una cosa. Trump ha fatto benissimo o no, secondo te, a fare questo provvedimento contro Trump sette? Ha fatto bene innanzitutto a mantenere quello con cui ha vinto le elezioni, perché ai Parenzo di turno sfugge il fatto che le cose che adesso Trump sta facendo e fa bene a fare le aveva promesse in campagna elettorale. Sì, questo lo riconoscono tutti, lo riconoscono. Perché le elezioni sono quel piccolo particolare che a sinistra sfugge, che permette alla gente di scegliere. Quindi ha vinto promettendo una stretta sull'immigrazione illegale, islamica in particolare. Una stretta sull'immigrazione, punto. Islamica. Ha fatto un provvedimento a effetti speciali che ha dovuto rivedere. Io ricordo che c'era Monsignor Biffi che diceva prediligiamo e privilegiamo l'immigrazione da paesi a noi più vicini per cultura e più assimilabili. Ma tu pure, se tu, dunque, tu approvi al 100% quello che ha fatto Trump? Attenzione, poi l'Italia è l'Italia, gli Stati Uniti sono Stati Uniti, però sta facendo quello che aveva promesso e fa bene a farlo. Allora, Clinton, tra l'altro, Bill Clinton, circola molto in queste ore un video di Clinton che dice deportiamo i clandestini, una delle sue presidenze, uno degli anni di sua presidenza. Oh, che cattivone! Cioè, non è che gli altri presidenti americani nel passato l'hanno fatto, solo che lo dice Trump, che c'ha la faccia così più cattiva, che c'ha la faccia da... poi giustamente... Basta navigare in queste ore, i cittadini di Israele non possono entrare in tantissimi paesi islamici perché sono sgraditi. Questo qualcuno, certo, si strappa i capelli per questo? No, no, ma infatti, ma ogni paese, la questione è questa, al di là dei piccoli errori che si possono fare, ogni paese decide come difendersi, ogni paese decide come... In casa, ma vi mia, posso Bush far notare... Se io ritengo ti faccio entrare, se non ritengo non ti faccio ma entrare. Ma posso farvi notare succede che... succede a casa a Parenzo e succede in uno stato che è una grande casa. Le polemiche le stanno facendo gli americani stessi contro vabbè, Trump. Alcuni americani stanno No, alcuni, no alcuni. Vabbè, i primi a contestare chi? I provvedimenti. I sondaggi? I repubblicani stessi. Il partito repubblicano in campagna elettorale. Ma perché non capite un cazzo? Perché? Gli stessi che lo attaccavano in campagna elettorale. Ma leggete almeno i giornali. Ma quello se ne fotte dei repubblicani. I primi a criticare il vostro Donaldone. Ma no, come lo chiamate? Donaldone? Donald Traffico, l'altro imbecille che chiama qui a sta radio. Donald Traffico. I primi imbecilli, i primi a criticare sono i repubblicani stessi. E critichino. Vabbè. E poi dite, ecco, Gadler. Che c'entra Gadler? Il partito repubblicano sta criticando Donald Trump. Che dite? Sì, basta, vabbè. Chiudi tutta la trasmissione. Io voglio basta. Capire una cosa. Tu fossi in Italia capo del governo, non so che cosa, faresti la stessa cosa? Ma io inizierei proibiresti l'ingresso alle navi della Marina Militare e della Guardia Costiera di smetterla di andare in acque libiche a raccattare migliaia di finti profughi. Questa sarebbe la prima cosa. Vabbè, ma quello d'accordo. Ma faresti un bando, cioè un blocco degli arrivi da alcuni paesi? Cioè alcuni paesi scelti peraltro dall'amministrazione Obama e non da Trump. Se ci sono paesi valutati a rischio, da quei paesi io non faccio entrare nessuno. Ma tu lo faresti? No, facciamo un'ipotesi. Siccome vi candidate alla guida del governo. Io mi propongo per andare al governo, sì, con un chiaro programma in economia, sulla giustizia, sull'immigrazione. Lo faresti il ministro degli interni? È molto chiara. Il ministro degli interni lo faresti, sì. Ah, datemi 6 mesi per fare il ministro dell'interno, poi vedete se non riporto un pochino di ordine in giro per l'Italia. Benissimo. 6 mesi mi basta. Allora, d'accordo, da ministro degli interni, però faresti un provvedimento che blocca tutte le normative, le leggi, il buon senso, il buon gusto, 6 mesi. Allora, 6 mesi per mesi di tempo. Vabbè, 6 mesi mi sembra un po' poco. Durante quei 6 mesi si decide chi entra e chi non entra. Ok, benissimo. Lo faresti un bando, un blocco nei confronti di alcuni... Ai paesi a rischio, assolutamente sì. Cioè, uguale a quello Ai di Trump. Ai paesi a rischio, assolutamente sì. Altro che per 3 mesi, forse per fino a quando non cessa il pericolo islamico. Oggi hanno sgominato un'organizzazione che gestiva l'immigrazione clandestina, 18 arresti in Italia e 16 all'estero, erano quasi tutti stranieri, nordafricani, tunisini, magrebini, albanesi. Ragazzi, ormai è un business, cioè, l'immigrazione tu stai fuori controllo, è un business, d'accordo, è un business. Secondo te, stranieri sulla pelle di stranieri. In questo momento gli islamici sono più pericolosi, che ne so, dell'andrangheta o della mafia o cose di questo tipo? Secondo no, te? Vabbè, attenzione, no, non metto in concorrenza. No, ma come pericolosità, come pericolosità. Il ministro dell'interno va a cercare di combattere mafia, camorra e andrangheta come fanno tanti giudici meritori. Secondo me che l'Islam in questo momento sia un problema, sia il pericolo pubblico numero uno, è fuori discussione. Pericolo pubblico numero uno. Senti, il capo della polizia... L'estremismo islamico in questo momento, ahimè, sta facendo disastri anche sulla pelle degli islamici in tutto il mondo. Parenzo? Tu lo sai che il capo della polizia, Parenzo, Gabriele, ha detto che c'è, che stai, sei atterrito, che c'hai? No, Parenzo è disarmato ormai. Ma di fronte a che cosa? Ma di fronte a tutto questo, questa ondata trumpista italiana. Disarmato. Ma qua è un'ondata trumpista italiana, non c'è nessuna ondata trumpista italiana. Disarmato. Qual è l'ondata trumpista italiana? No, scusa. No, sono disarmato. Ma qual è l'ondata trumpista? Sono disarmato, dite delle cose che non stanno in cielo. Ma l'Italia si va a votare, si capisce quando si va a votare. Insomma, potrà dire... Il ma nostro amico ritiene Salvini che l'immigrazione potrà... clandestina di massa, l'invasione a cui stiamo assistendo sia normale, sia nell'interesse di qualcuno. Ma non c'è nessuna immigrazione selvaggia, ascoltami un attimo. Riconoscerà no, che il ministro Minniti ha detto delle L'Italia cose condivisibili o no? Sotto controllo. È d'accordo con Minniti che ha firmato l'accordo con la Libia, ma che è a favore dell'accelerazione. Ma dice delle cose che se le dice Salvini passa per razzista. No, dice, dice delle cose di buon senso. Salvini, quello che chiediamo di fare da anni. No, voi dite a prescindere dagli accordi. Ma non è che però. Ma che c'è, gli accordi li fanno tutti, dai. No, gli accordi l'ha firmato lui con la Libia. Ma nelle acque libiche, il blocco navale nelle acque libiche, lo propongo da 3 anni e sono un matto. Adesso che lo propone l'Europa è un'idea geniale, fatelo. Dai, no, ma Mini ti dice delle cose in queste ore, dice delle cose in queste ore che alcune persone che sono considerate razziste dicono da tempo. Cioè dice basta, bisogna decidere in tempi più rapidi se uno è profugo o no, e si sa, ma che questo... non sa, e via. Ma questo... se lo dice un'altra persona è un pazzo. Lo chiediamo da anni, lo si faccia. Beh, e non si fa più niente. No, perché poi loro senti, dicono... la Merkel è scandalizzata per Trump, che dici tu? Ma la Merkel, guarda. La Merkel si sottoporrà al giudizio dei tedeschi il prossimo 24 settembre, penso e spero che vada a casa e cambi mestiere, perché di danni che dovrebbe fare come mestiere, sì, europei ne ha fatti anche troppi, ma il mestiere che dovrebbe fare Napolitano, che dovrebbe far Prodi, che dovrebbe fare il pensionato, i giardinetti degli altri, il nulla a gratis. Ma va processata pure lei, andrebbe processata, ma in Germania ma non ci sono i tedeschi. Io rispetto la democrazia a differenza di Parenzo. So che in Italia ad esempio un tizio come il governatore di Banca Italia invece di pontificare sarebbe, in un paese normale sarebbe già sotto inchiesta, sotto processo, in galera addirittura. Chi è? Scusa, Banca Italia è super pagata con 7.000 dipendenti e 600 dirigenti per vigilare sul fatto che le banche siano a posto. Il sistema bancario italiano sta esplodendo e sto tizio va ancora in giro a pontificare in televisione a far convegni. Cioè dovrebbe essere preso a calci nel sedere, dovrebbe essere ma lo pagano per controllare che le banche siano a posto. Dov'era? Montepaschi, Veneto, Visco Banca, in galera, Visco in galera. No, ma nel nostro programma c'è di riportare sotto il controllo pubblico Banca Italia, perché altrimenti senti, poi io voglio capire una cosa, hai criticato vuol dire sotto il controllo del governo, 7.000 dipendenti e costa 2 miliardi di euro all'anno per vigilare sulle banche, cosa che non fa. Ma troppo, il fatto che Banca Italia sia indipendente dal potere politico ne garantisce la sua efficacia, no? Questi vogliono prendere e papparsi tutto, questi vogliono papparsi tutto. Attenti, scusa, cari elettori della Lega Nord, per la fu indipendenza della Padania. Ma questi perché, vogliono ma papparsi tutto. Anche le cose evidenti. Vogliono papparsi tu ritieni tutto che sulla questi radio economica per antonomasia ci sia qualcuno che ritiene che Banca Italia abbia vigilato attentamente sulle banche? No, ma andranno cambiate che la pensa così. Sicuramente, ma intanto Banca Italia il caso di Banca Etruria l'aveva segnalato e come, poi questi qui non hanno fatto nulla. Andate a leggere, lo aveva segnalato un anno prima del default Banca Italia. Che dite? Allora fermi tutti che c'è la pubblicità, dite, ragazzi belli. 12 miliardi quest'anno, pubblicità, ma Italia... pubblicità. E allora ci vuole il controllo politico. Adesso Cruciani a favore del controllo politico di Banca Italia. No, chi ci mettiamo? No, io non sono d'accordo. Borghezio, chi ci mettiamo? Io sono per eliminare Italia. Io sono per eliminarla, figurati. Ma chi ci mettiamo a Banca Italia? Sono per eliminarla. Calderoli a Banca Italia, ci mettiamo? Fermi. Dai, ragazzi belli. Cruciani non si può sopportare. Sei spregevole, Parenzo. La Zanzara. Ma vaffanculo. Allora ragazzi, io vi dico nulla, non dite nulla sulla strage in Canada alla moschea, ma niente. Ma che ne sappiamo? Non sappiamo niente, ma non sappiamo niente. È un fan di Trump e della signora Molly Pon. Ma che vuol dire? Niente, dai, ma sei patetico. Non dite nulla. Ma non un pazzo che ammazza niente le persone, cioè, ma non si no sa. No, ammazza le persone, ha attaccato una moschea. Ma dai, quando si attaccano le chiese o le sinagoghe, si dice attaccata una sinagoga, attaccata una chiesa. Qui è stata attaccata una cosa, ma dai. Sì, certo, ma è per carità, ma è una cosa gravissima. L'obiettivo è chiaro, sei morti. Lo studente era franco-canadese, il terrorista. E allora? Era franco, non dite allora niente. In silenzio, zitti, muti. Ora il problema... Sì, non ho capito, perché è un pazzo fan di Trump, perché ha scritto cose su Trump. Pazzo. Della destra alle penisse. Quello è un pazzo. Beh, certo, uno che ammazza le persone, certo. Quello è un pazzo, mentre quello che ammazza in nome di Allah è un islamico, è un pazzo come pure tutti quello gli altri. È un pazzo pure quello. Esatto, è un pazzo. Ma è un pazzo scatenato. Vabbè, ma guarda che sei incredibile. Questo, no? Ah, pazzo quello, questo è pazzo, ma questo è chiaramente è isolato, non è che esiste, Allah, ma non è che esiste che un movimento dei bianchi, non uccide, è che esiste il terrorismo bianco esiste contro le moschee. Non è esistito contro le moschee. Breivik, la massima era Breivik. Ma sei patetico. Vabbè, Breivik. Dai. Vabbè. Matteo Salvini, come rispondi a Parenzo che dice ma che dici perché la società ma dai, su, ma non è niente, sul Canada non dite niente. Perché dici? Perché ci sono i masochisti come Parenzo. Niente. C'è gente che ricorda la giornata. Nessuna condanna della Salvini dell'attacco alla moschea, ma certo. Solidarietà. Ah, certo, arriva lui, il portavoce, no, portavoce di sovranità. Ma ecco il nuovo portavoce. Giuseppe Cruciani, il portavoce no, di sovranità. Ma non c'è benissimo. Essere portavoce, benissimo. È chiaro che la condanna, non penso facciamo che sia e condanna questo episodio. Sì, certo. Solidarietà ai musulmani di tutto il mondo che ma hanno subito. Il mondo? Che dire? Ma certo. Ma ti pare una domanda? Ma infatti non è una domanda. Ma ditelo però. Ma non è una domanda. Ditelo. Ma che vuol dire? Fai un twittino ogni tanto. Fai un twittino. Fai un twittino ogni tanto dicendo guarda, vergognoso l'attacco alla moschea. Ma è normale che è vergognoso. Fai un tweet. Fai un tweet però. Fallo parlare, però fallo parlare. E tu fai un tweet intanto. Vabbè, fai un tweet. Mentre lui parla, tu fai un tweet. Dai. Mamma mia. No, Matteo, ti ordina di fare un tweet. Tu dovresti fare un tweet, altrimenti non sei democratico. Non faccio il tweet a richiesta di Parenzo. Esatto, dai, sì. Fanne uno, non ti costa tanto. Fai un tweet, ti porta bene, fidati. Fai un piccolo tweet davanti alla stessa domanda, moschea. Posa una testa di maiale davanti all'ingresso. Una testa di maiale. Come quando voi portaste a pascolare un maiale. Ma è un pazzo isolato questo, dai, su. Lodi, la Lega voleva far pascolare un maiale dove si sarebbe dovuta costruire una moschea a Lodi. Comunque, vabbè, fai Salvini... un tweetino, dai, un piccolo tweet, poche battute. Stavo dai. Semplicemente dicendo che Parenzo testimonia il fatto che la cultura occidentale o ritrova un po' di dignità o di orgoglio oppure è destinata a scomparire. Cioè, nel giorno dell'attentato, il problema cioè, è Parenzo. Perché... Gente che festeggia giustamente la giornata della memoria, lo sterminio degli ebrei. E poi spalanca le porte all'arrivo di migliaia di islamici che gli ebrei li vorrebbero continuare a sterminare al giorno d'oggi, è gente che ha dei problemi mentali. Non tutti gli islamici sono delinquenti, evidentemente e fortunatamente, ma troppi islamici interpretano alla lettera il Corano, che è un libro di guerra, che è un libro di violenza. Mentre la Bibbia, fortunatamente, è stata interpretata in maniera evoluta e moderna, molti interpreti del Corano sono indietro. Dunque la, la convivenza con l'Islam è possibile. Dunque la convivenza con l'Islam ci sarà la possibilità di interpretare in maniera moderna, evoluta e democratica. Meglio che gli islamici, allora bisognerebbe cacciare tutti gli islamici dall'Italia, secondo questo ragionamento. Come vorrebbe fare Trump? Sicuramente controllare tutti i luoghi di ritrovo e di culto, questi sì. Fossi ministro dell'interno, chiuderesti le moschee? Chiuderesti le moschee? Che si preghi. Giusto in l'albo dell'imam. Innanzitutto non ne faccio più aprire neanche una di nuova. In Lombardia abbiamo approvato una legge che questo dice. Perché sono tutte clandestine, casa, infatti. Sbagli. Voglio sapere da dove arrivano i soldi. Perché se i soldi arrivano dai paesi dell'estremismo islamico che hanno finanziato Al-Qaeda. Dal Qatar arrivano. Io non faccio aprire, appunto. Con cui fai affari? Io dal Qatar arrivano. Il Qatar non è nella lista di Trump, Il Qatar non è nella lista di Trump. Arabia Saudita, Emirati Vabbè, Arabi. Quelli sono fatti loro che hanno messo chi non hanno quelli messo, vanno bene quando comprano l'Hotel Galli a Milano. Beh, e il Qatar ti va bene quando comprano l'Hotel Galli a Milano, vero? Il Qatar ti va bene quando comprano l'Hotel Galli a Milano. Dai ragazzi miei, siete Qatar, degli ipocriti. Scusami, fammi capire, il Qatar è nella tua lista nera, allora deve vendere il Gallia di Milano. Vabbè, ma che c'entra? Non è che... No, scusami, il Gallia di Milano è di proprietà del Qatar. Si vendesse italiano, sai a me del Qatar che si compra l'albergo quanto mi può far felice? Zero. Se l'Italia fosse messa in condizioni di fare quello che faceva prima, gli hotel ce li gestiamo noi, sì, come da le soli, spiagge certo. Ce le gestiamo noi, come i campi di grano. Tutto da soli facciamo, noi. Autarchia, tutti da soli, come nelle anni autarchia. 30, magnifico, tutti da soli. Tutto da soli invece facciamo. Dobbiamo svendere tutto a tutti? Ma assicurazioni, banche, alberghi, spiagge, hotel. Ma cosa svendi? Squadra di calcio. Svendere tutto a tutti? Squadra di calcio. Orgoglio, Parenzo, finché sei in Italia... mantiene un minimo di orgoglio. Senti, di dignità. Ma che secondo te Carlo Conti guardare avanti. Carlo Conti guadagna troppo a Sanremo? Ma 650.000 euro in un momento come questo effettivamente sono uno schiaffo a tanta gente. Però io più che la polemica su Carlo Conti ho chiesto ufficialmente, siccome la RAI ha quantificato in 6 milioni di euro il guadagno che le deriverà dai 5 giorni di Sanremo, il giorno dopo la chiusura di Sanremo quei 6 milioni di euro in contanti vengano accreditati su un conto della Protezione Civile. Ma perché scusa? Ma questo mi sembra una cosa assurda, però sono scusa. Soldi recuperati. Ma quella è la televisione, già la RAI c'ha tanti problemi, gli togli pure i 6 soldi di Sanremo, è finita. Col canone in bolletta hanno rasoiato tutto quello che potevano rasoiare. Se ritengono di superpagare il signor Carlo Conti, a me dà fastidio e secondo me è uno stipendio assolutamente indegno, ma siccome guadagneranno 6 milioni di euro grazie a questi 5 giorni che non avrò il piacere di seguire, quei 6 milioni di euro potrebbero usarli. Perché non li segui? Perché sarò impegnato in altro, molto probabilmente. Cioè non te ne frega nulla di Sanremo? Cioè, assolutamente sì. Cioè, proprio no, no, posso dire, non so, posso ancora assolutamente, sì, paese libero dire che non seguirò il Festival di Sanremo. Sì, su questo può avere anche ragione. Per 5 sere. Le borse non esploderanno. Sì, però, questo può avere ragione. Parenzo non dà fastidio. No, no, ma posso essere anche d'accordo con te, guarda, sono d'accordo. Ecco, leggiti un libro. Ma sullo schifo dei 650.000 euro a conti, 650 o 700. Sì, è uno schifo. Dal mio punto di vista, c'è uno che lavora per mica il tetto, non c'era mica il tetto di 240.000 euro. È saltato. Che, ad esempio, è saltato. I dirigenti di Banca d'Italia non rispettano, giusto per tornare è saltato, al pubblicità. È saltato. Male. Male, è saltato. Perché per me un tetto assolutamente andrebbe messo. Mi leggerò un libro di Mauro Corone che ho incontrato oggi ad Aosta. Ma leggiti anche un libro di Ujan Sharka, l'imprenditore albanese che vive in Italia. Montagna, nel governo Salvini. No, però il ministro della montagna non serve. Il ministro della montagna non serve. Ci abbiamo tanti ministri inutili. Il ministro della montagna, leggiti la storia di Ujan Sharka, ad esempio. Ma chi è sto Ujan Sharka? Il giovane imprenditore albanese, ex clandestino, fuggito dalla miseria, che oggi ha un'azienda da 25 milioni di euro. Leggiti la storia di Ujan Sharka. Le opportunità per le persone per bene ci sono. Ci sono semplicemente alcune centinaia di migliaia di clandestini da espellere in massa. Cioè, ma fosse per te, fosse per te Sanremo andrebbe chiuso, insomma, chiuderebbe domani mattina Sanremo. No, fosse per me la RAI sarebbe privatizzata, questo sì. Poi la RAI privatizzata con i soldi dei privati fa quello che vuole. Terrei al massimo un canale. Questo è giusto. Pubblica, uno, su questo ha ragione. Uno. Gli altri due sarebbero sul mercato. Ma da mo che si dice questa roba. Ciao, su questo ciao, ha ragione. Presto, ciao. Saluti, cara. Sahid Lecco. Sì, pronto, buonasera. Tu essere muslim? Ecco, muslim? Essere subito, lo interro sì, così. Muslim. Tu vuoi essere muslim? Non sei neanche capace di imitare, quindi evita, va, che fai solo figure, Cucciani. Tu essere muslim. Allora, tu essere allora, muslim però, tu essere muslim o no? Sì, muslim. Molto muslim. E vabbè, non c'è niente di strano essere muslim. In maniera moderata, ecco, morigerata. Sì. Cioè non fai Allahu Akbar. Ma perché certo che lo farà a casa sua? Che te ne non fai Allahu Akbar. Ma che te ne, ma cosa no, ti fa ridere di pensare? Ogni che fanno Allahu Akbar, ma io sono morigerato, ecco, va bene? Sì, sei morigerato, no. Che se capisce quello che vuol dire, però va bene. Cioè, sì, cioè islamico, sei islamico all'acqua di rose, non sei veramente islamico, te ne fotti. Sì, mi tengo distanziato dai tagliatori di teste, ecco. Ecco, allora che vuoi, Said, dimmi. Allora, io voglio parlare con il comunista con il Rolex, quello lì, il Parenzo lì. Sì, sì, però non ho un Rolex io. Allora... questo allora, tu Parenzo, ti indigni tanto. Non ho il Rolex. Il Trump, il poveretto, che firma legittimamente, tra l'altro, legittimamente nel pieno dei suoi poteri. Un arabo, uno che di origine sei tu, Said? Io, del Marocco. Italiano, sì, però ormai sei. Sì. Italiano, di origine marocchina, che mi sembra non completamente sfavorevole a Trump, no? O sbaglio? No, anzi, guarda, io avrei votato per Trump. Io voterei anche per Salvini, ma purtroppo non vincerebbe mai, quindi non posso fare. Vabbè, allora? Allora, io devo chiedere a quel comunista con il rock perché non si indigna se quel criminale di guerra di Netanyahu che ha bannato 15 paesi musulmani ha bannato col passaporto, e gli chiedo perché non si indigna con Netanyahu e si indigna con Trump? Lì c'è un altro problemino, diciamo, dalle parti di Israele. No, sai, c'è un altro problemino. Dici, però c'è il principio lo stesso. Il principio beh, gli stati arabi sono in guerra con Israele, alcuni. Stai zitto un secondo, ci sarà un motivo se hai 2-3 minuti, perché sei un somaro, perché dovresti sapere che Israele ha rapporti con l'Egitto e con la Giordania. No, campo con uno che non vuole ascoltare. Israele, come lei sa, non è che ha rapporti con alcuni paesi arabi con i quali ha da tempo relazioni diplomatiche e commerciali. Tra questi c'è Israele e la Giordania, ad esempio. Con gli altri, siccome c'è stata e c'è una guerra in corso perché li vogliono attaccare, non puoi avere delle relazioni, no? Un esercito con miliardi di armamenti contro 4 scimmie che lanciano. Scusa, la Siria è in guerra con Israele o no? Quattro scimmie, chi sarebbero le 4 scimmie? Ha attaccato Israele o no? La Siria. Beh, cosa? Sapientino Mon Amour, la Siria è in guerra con Israele o no? La Siria. La Siria è in guerra con Israele? Ma che cazzo? La Siria. Assad ha dichiarato che vuole la distruzione di Israele o no? Somaro d'un somaro. Aspetta, Said, io voglio capire una cosa da te. Tu pensi è un somaro, che Israele sia uno stato terrorista? Ma questo è agli atti, cioè non è che lo devo dire io. E poi lo paragoni tipo ai nazisti, sai che c'è quel paragone. Poi questo è un po' in contraddizione, signore, perché Trump è molto amico di Netanyahu. Quindi questo idiota è anche in contraddizione con se stesso. È talmente stupido, poverino, che pur di attaccare me. Sei talmente stupido. Trump è il più grande difensore di Israele e Netanyahu hai appena di. Te l'ho appena detto, stupido. Sai che sei stupido. L'ha appena detto. Purtroppo sei stupido. Tu che sei contro Israele e però sei amico. Hai difeso Trump. Hai attaccato Israele chiamandolo stato criminale. Quando il migliore amico di Trump è Netanyahu. Ma certo. Come Benson te lo dico. Sei stupido. Sei uno stupido. Quando telefoni, studi, leggi due cose anche al volo col telefonino. Guarda. Sei stupido. Non posso parlare con uno stupido. Da contratto mi è impedito. Fermi. Sei stupido. Appunto, fermi. Stupido. Parlo con Giuseppe Cruciani. Chiamo dalla segreteria degli inferi. Il diavolo vorrebbe avere un contatto con lei in prima persona. La Zanzara. Ma qua tutti noi abbiamo due quesiti. Uno, ma Parenzo si candida ancora? Deve continuare a fare il sindaco, a parlarci, a dirci il suo piano. Due, che fine ha fatto Robert Hannuna? David, illuminaci, ci illumini sindaco! Io comunque, se quando si va a votare non trovo il nome di Parenzo come nuovo sindaco di Padova, mi incazzo di brutto. Ritorna una rubrica, caro Parenzo. Tornerà anche Robert Cannuna, perché mi ha appena Tipi da zanzara, via. Tipi da zanzara. Galleria sul rapporto tra gli italiani e i rom. Qui facciamo grande sociologia, Parenzo, grande ricerca all'interno della società. Cioè quella che tu una volta hai chiamato la colonscopia dell'Italia. Sì, esatto, certo. La colonscopia dell'Italia. Gianni da Varese. Dai, chi è? Gianni, dai. Gianni. Velocissimo, senti, Parenzo ha detto il castrato. Come hai detto il castrato? Chi è questo signore? Come è castrato? Ma scusa. Parenzo, non è incastrato? Ma non è castrato. Come si chiama questo signore? Gianni dalla provincia. Ah, pensavo fosse il professor Settis, il preside della normale di Pisa, l'archeologo. No, non è il professor Settis. Non c'è bisogno di sapere. No. Ho visto che lui si fida degli zingari, perché non dà il suo indirizzo di casa pubblicamente così quando vanno a casa loro? Poi capiremo magari qual era la sua reazione quando andranno in casa sua e gli ruberanno tutto quello che. Ma perché io posso difendere i ladri? Ho mai difeso i ladri io? Le risulta che sono mai... solo ladri, loro di cosa fanno? Loro campano di questo, scusi, Tu che cosa faresti coi rom? Io li circonderei chi esce da un circuito. Sì. No, il circuito non dico cosa ci aggiungerei nel circuito. No, dillo. Chi esce fuori dal circuito e se la fa lo castro chimicamente. Chi rimane dentro sono cazzi suoi. Io non ho capito bene la cosa del circuito dove mettere dentro i rom. Non ho capito che cosa c'è intorno. Qualche cosa di infiammabile intorno. Cioè tu metteresti un campo, circonderesti il campo di roba infiammabile. Chi resta dentro brucia. Chi resta dentro brucia. Chi esce castrato. Lo castro chimicamente. Poi interviene Marco da Ferrara, caro Parenzo. Tu questi qua li manderesti tutti a rogo, questi a rogo, cioè in tribunale finché a rogo. No, a rogo. Li manderei sì, in tribunale a rispondere di istigazione all'odio razziale. No, ma tirerei lo sciacquone anche, guarda. Marco, sì, Marco. Sì, ciao a tutte e due. Allora, questione Zingari o nomadi. Allora, io sarei anche d'accordo a dargli la corrente elettrica, l'acqua, il gas e anche una recinzione. Occhio, credo, la recinzione no. Ecco, occhio, però la corrente elettrica gliela diamo con i cavi scoperti. Tutti scoperti. Ecco. L'acqua gliela diamo a doccia su tutto il campo, così in combinata con l'impianto elettrico può fare qualche cosa. Il gas non gli diamo il GPL e non gli diamo il metano, ma gli diamo l'idrogeno. L'idrogeno è un gas molto serio. Ha molto più potere calorifico l'idrogeno. Lui è molto serio. È molto più volatile. Tu non li consideri nemmeno esseri umani, questo è il punto. Sono dei virus. Sono dei virus che vanno debellati. Modificati geneticamente. Uno può dire anche che i ladri ci sono un po' dappertutto, no? Cioè, può anche essere giusto. Tra rom, però tu non li puoi vedere. Eccetera, però tu non li puoi vedere. I zingari, i nomadi, io non li posso vedere. Non li puoi vedere. Un rom che lavora, che ha la sua abitazione qui, metti che sia anche abusiva, come fanno molti italiani, non mi interessa. Quello è integrato. Sì. O si sta integrando. Quello che vive in un campo, nomadi, va soppresso. Senza niente, va soppresso. È meglio allontanarlo prima, poi se non si vuole allontanare lo sopprimiamo. Essiccato, questo è un nuovo termine, essiccato. E dopo l'essiccamento di Marco andiamo a Giulio da Salerno. Il rapporto tra gli italiani e i rom, sai, rapporto rom, Parenzo, no? Sai come erano le associazioni, la colonscopia dell'Italia, gli italiani e i rom. Giulio Salerno, allora io direi di andare con Salerno. Giulio, vai. Ciao Giuseppe, ciao Parenzo. Dimmi. Volevo fare un'osservazione su quell'ascoltatore che ha chiamato prima, diciamo, su quella fornitura che voleva dare ai rom, i fili scoperti, l'acqua. Troppe cose. Un cane del carico di benzina e un fiammifero. Ah, tu dici così si risolve la situazione? Sì, subito, prima. Subito, cioè si brucia il campo direttamente? Sì, direttamente. Ma con quelli dentro o quelli fuori? Con tutti. Con tutti dentro. Bimbi, vecchie, giovani, bambini, perché dunque, i piccoli da grandi 20, saranno 37, altri delinquenti. Dunque tu con i campi rom faresti una cosa, bruceresti tutti quanti? Sì. Tutti. Cioè secondo te non sono degni di vivere i rom? E in questo modo qua no. Sento, non è che decido io la vita degli altri, però vedi miglioramenti da parte loro. Tipi da zanzara. Allora Parenzo, allora la comunicazione è questa: mentre tu continui a organizzare le tue cene con il Riccardo da Roma Fan Club, no, veramente, e fanno due cene all'anno, dai, e gruppi di miserabili, io invece sto creando il gruppo dei normalisti, cioè quelli della normale di Pisa, i quali mi hanno scritto in tanti, e organizzeremo una cena della Zanzara con gli studenti con i laureati alla normale di Pisa. Ma qual è il problema? Non ho capito qual è il punto. Per dirti la differenza che c'è tra questi due mondi, no? Ma quali mondi? Ma non è vero. Faremo incontrare il Riccardo da Roma Fan Club con Mauro D'Amato, pieno di laureati là, no? Ma voglio dire, il Riccardo da Roma Fan Club, Donato da Varese, con i normalisti, no? Quelli della normale, bellissimo sarebbe, quelli della normale Elena Pisa, da Roma insieme. Elena, stupendo. Elena da Roma, vai. Elena. Pronto? Sì, dimmi Elena, dimmi. Parenzo Crociani, ciao. Volevo dirvi una cosa. Dimmi, cara, non dimmi. Per etica, che non penso vi appartenga. Etica. Ma per il fatto che non ci appartiene, uno stipendio da Confindustria. Ma non vi vergognate di fare l'intrattenimento alle 8 di sera? No, non ho capito, parlando, scusa. Del bidet. Il bidet, stupendo. Il bidet. Parenzo, tu lo fai il bidet, Elena? No, io non ho parlato del bidet. Io. Tu lo fai il bidet o no? Ma sono affari miei, non li vengo. Ma lo fai o no il bidet? Questo è il punto, no? Beh, è un'informazione. Punto, sì, non ti sto chiedendo, amica mia, non ti sto. È brutto anche immaginarvi farlo. Ma sarà brutto, no, immaginarci, ma lo non, fai no. o no sto bidet? E tu bidema? Alle 8 di sera, sì, sulla radio di Confindustria. Pagati però, non gratis, pagati, eh. Ecco, sì, no, perché ma ci mancherebbe altro. Ma ci mancherebbe altro. Qual è il tuo problema? No, senza Rolex, per quello. Ma... Se l'Italia è in ginocchio com'è, sì, anche valorialmente parlando, sì, questo è vero, è perché però. Gli intellettuali... Sì, no, io non mi sento intellettuale. No, aspetta un attimo, questo, su questo ho ragione, però. Ma qua hai ragione, che cosa? Ma che dici? Di valori che non esistono. Sì, ma quale sì, parte aspetta, ferma. Radio parlando del bidet, se fai vista a cavalcioni. Ma tu come lo fai il bidet? Come lo fai il bidet? Non ho capito. Io me lo faccio fare il bidet. Da chi? Eccola qua. La signora. No, però aspetta, Elena, non ho capito. Innanzitutto, ma io non ho finito sempre, sei tu che l'hai detto. Ma sei tu che l'hai detto, non io, sei tu che l'hai detto, mica io. Però qui si apre tutto un dibattito, signora mia. Sto riprendendo sul fatto che tu sei un... Aspetta un attimo, sento poco, sento... In un momento in cui c'è gente che lo stipendio non ce l'ha. Ma che devo fare? Ma cosa devo fare secondo te? Ma fai la radio seria. Ma faccio guadagnare i soldi a questa baracca, ma che vuoi di più? Non mi rompere i coglioni. Parla dell'attacco della moschea. Ma l'attacco alla moschea, ci sono gli specialisti che ne parlano. A pensarti, si può come lo fai. Aspetta sei un attimo, brutto. Elena, scusa un attimo, abbi pazienza, cerca di metterti bene col telefono, sennò capisco poco. Che no, c'hai... Aspetta, è che no, ho non cellulare, sei... però, sai com'è. Cellulare, per forza, quello molti. Tutti molti chiamano col cellulare. Hai la solita cosa, la solita domanda, viva voce... No, non sono in viva voce perché so che fa ritorno in radio. Attacca bene la boccuccia tua, carina, sì. Sicuramente sarà una bocca meravigliosa, dico, immagino, alla cosa, al telefono, perché così si sente meglio. Hai una bella bocca, hai una bella labbra, Elena? Ti ripeto, sono affari miei. Vabbè, ma non è una domanda così scabrosa, dice, hai una bella bocca, non mi pare di aver detto. Perché devo parlare della bocca mia? Io ma così ho chiamato stasera per dirti che state facendo. Lo fai il bidet, sì o no? Lo fai il bidet, sì o no? Lo fai o no? È intervenuto un ascoltatore, Elena, chi quale mi ha chiesto? Sì, ma chi se ne frega, non lo vuoi dire, non lo dire, ma non lo e a chi lo dici? Ma non te verrò mai a dire una cosa del ma genere. Chi lo dici allora? Non lo e non lo dire a nessuno non allora. Non lo dire a nessuno. Peggio per te, a te non te ne frega niente. Ma frega niente cosa fa sta signora. Comunque siete stupendi, fate un tipo di radio così che è figa, che è vincente. Ma io non ho capito Elena, ma che vuoi da noi? Il mondo sta implodendo. E chi se ne frega? Noi ma ce ne fottiamo, ce ne sbattiamo i coglioni. Parlare del pide come se lo fa a me del mondo non me ne frega niente, capito? A me del mondo non me ne frega nulla. Cioè, di come va il mondo non me ne frega niente a me. A me importa niente. Di come va il mondo. E questa è la differenza tra me. Importa di come va il mondo. Ecco la voce. Come la... È arrivata Elena da Roma, la quale pensosa si interroga su come va il mondo. Cosa ti preoccupa? La deforestazione dell'Amazonia? No, cosa ti preoccupa? Le migrazioni? Cosa ti preoccupa? Cosa? Dimmi, cosa ti preoccupa del mondo? Per esempio, cosa? Il passaggio delle persone trattate come animali per essere sbattuti nel nord dell'Europa, il passo tu da Roma che fai la vita borghese ogni giorno e pensi sicuramente a come, no, a come passare la serata, se al ristorante di Prati o al ristorante dei Parioli, sì, oppure all'osteria, sei preoccupata la sera, non vai a letto perché pensi al siriano che percorre l'Europa. Ma chi cazzo ti credi? Ma chi ti crede? Ma chi ti crede? Tu non esatto ti preoccupi ogni tanto, ogni tanto una parte del tuo cervello si vuole sentire buona, una parte del tuo cervello stai parlando con una fa, ma chi se ne frega, fa scattare, fa una parte del tuo cervello, fa scattare, fa scattare la tua la tuo animo. No, devo essere però abbiamo una parte, siccome abbiamo la pancia piena, dobbiamo essere anche un po' buoni nei confronti degli altri. Ma e allora pensiamo al profugo siriano. No, ecco, fa anche il volontariato, bellissimo. Fa anche il volo. Beh, quello infatti. Sai, hai fatto sacrifici per far studiare i tuoi figli, brava. Che ne sai? Stupendo, bravissimo. Sulle spalle. Ma ma quello infatti, ma quello... Sì, cosa ma non sei pensosa non per il siriano che attraversa l'Europa. Non sei preoccupata per perché stai parlando. Sì, ma stai tranquilla, non attraversa. No, io sono tranquillo, io sono così. Abbassa la voce. Ma non è non sei preoccupata dal siriano che attraversa l'Europa per arrivare al nord. Non sei preoccupata per quello. No. No, stai mentendo, non è per quello. Non sei preoccupata, le tue preoccupazioni non sono quelle. Sono gli anziani che devi mantenere, giustamente. Sono i tuoi figli, non per il siriano, non per il siriano. Che abbiamo costruito e che è aggredito da tre continenti interi che spingono per entrare nelle nostre latitudini di benessere. E la mia paura è che non sia per tutti. Perché un mondo migliore piacerebbe a tutti. Mondo migliore, ma la mia paura è che mondo non è certamente meglio adesso rispetto a prima il mondo, stai sicura? Ma guarda. Dipende per prima cosa. No, tutti i dati lo dicono, si sta meglio adesso di quanto si stava 20 anni fa o 30 anni fa. Si campa più a lungo, le donne non vogliono di parto, se un uomo supera una donna viene arrestato. Comunque guarda, il bidet era un argomento più interessante di questa discussione, di questo litigio tra me e te. Il bidet era molto più interessante, tu pensi che sia... Ma stai tranquillo, io non abbasso nulla perché a me donna o uomo non faccio differenza, se tu che ti scrivi, se tu invece al contrario... Che c'hai di sotto? Sai, ma come ridi? Oh? Ma come sembri un topino? Sembri un topino. Per me è un modo meraviglioso di concludere. Sembri un topino, sei. Sembri ti un topino. Squittivi. Ciao, Diego, provincia di Monza. Diego, provincia di Monza. Di pochino, dai. Ah, era brava la signora, perché da combatteva. A me piacciono le persone che combattono. Diego. Pronto? Vai, dimmi. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Ascolta, mi dispiace che volevo intervenire mentre parlava Salvini, purtroppo però già messo vai. Volevo esprimere la mia solidarietà a Davide, che finalmente uno che dice in faccia a Salvini quello che è vero. Mi fa molto ridere il fatto che Salvini parli di diritti di lavoratori quando lui non ha mai lavorato un giorno in vita sua. E questa cosa qua, diciamo la verità, lascia abbastanza sconcertati, quindi... Sì, ragazzi, però Parenzo è uno quello che difende la politica di una volta, quando uno faceva politica tutta la vita, per cui adesso non è che può rompere i coglioni a Salvini, perché... Scusa Giuseppe, io non sto condannando Salvini il politico, ma Salvini che si elegge al paladino dei lavoratori non avendo mai lavorato un giorno in vita sua. Mi sembra più o meno un anno fa Ma questo che cazzo c'entra, però, scusa? Vabbè, ha perso una querela contro il giornalista del Fatto Quotidiano, che ragazzi, ma questo sono tutti, che ha anche il fatto che Allora facciamo schettino al ministero dei trasporti. Critica su quello che dice, come fa Parenzo, come faccio ogni tanto io, meno, perché alcune cose mi piacciono, altre no. Scusa Giuseppe, facciamo Rocco Siffredi paladino della verginità, allora va benissimo. Ma su tutto. Che cosa? Non ho capito. Non ha lavorato, non ha fatto un lavoro, che ne so, l'operaio, eccetera, deve essere condannato a priori. Dovete semplicemente. Criticalo per le cose che uno dice, e le Parenzo lo ha fatto benissimo. Non ha mai lavorato. No, io lo sto criticando. Poi per carità, criticalo pure per quello. Io lo sto criticando appunto per quello, anche quando mi viene a dire che oggi gli italiani sono pronti a fare qualsiasi tipo di lavoro. Quello infatti lo critico pure io, perché non è vero. Come ha detto quello prima non è vero. David, quello non è vero. No, la questione, sai cos'è? Che la politica oggi non è dentro nella vita reale del paese. Il signor Salvini, prima di parlare, faccio un esempio che mi viene al volo, dovrebbe andare a visitare, non so se non è mai stato, in un caseificio dove vanno a produrre, dove si produce parmigiano reggiano. Quello padano. Probabilmente l'ha visitato, è una delle poche cose. Fermo lì, ciao. Cruciani, il mio ragazzo non mi fa ascoltare la zanzara. Adesso gli piscio nel lavandino. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Perché nessuno mi ha detto che Zucchetti fa software anche per grandi aziende? La zanzara. Anni e anni per convincere mia moglie a fare sesso anale e tu mi mandi via all'aria tutto quanto con la De Mari, ma vaffanculo, va. Aspetta un attimo, Parenzo, sono a passare in Germania a fare un weekend, ma pensavo, ma che maggioranza silenziosa, sei una scoreggia silenziosa. Dai amore, adesso basta con sta zanzara, hai rotto i coglioni, vieni qua, continuiamo a scopare. Ma a me tocca. Segnali della fine del mondo, caro David, segnali sempre più evidenti della fine del mondo. L'asilo per i cani con lo scuolabus per i cani a Milano. Come lo scuolabus? Qua, scuolabus per i cani e asilo per i cani, non ci puoi credere. Come l'asilo per i cani? Senti! Ma che dite? Quest'asilo è un posto dove i cani stanno in compagnia, si divertono, fanno delle attività, palestra piuttosto che altri tipi di giochi. Stanno qua da minimo da un'ora a tutta la giornata a seconda delle esigenze dei proprietari. La palestra per i cani, c'era un labrador che correva sul tapirula. Ma un canile? Questi sono dei geni, fottono i soldi agli imbecilli, capito? Un cane, cioè, sul tapirulano. Ma ci sta male il cane sul tapirulano? C'era un labrador che faceva il tapirulano. Ma dentro chi ci fa mai l'asilo per i cani? Ragazzi, sono dei geni, rubano i soldi a delle teste di... No, teste di cazzo no, perché non è esagerato. Rubano dei soldi a dei poveretti che pensano di far stare meglio sì, i cani, certo, bravo, certo. All'interno di queste strutture. Lo scuolabus. Ma quale scuola? Proprio come in un asilo per bambini, verso le 9 arriva lo scuolabus con l'autista Simone. Loro passano la maggior parte del loro tempo con voi. I cani ovviamente riconoscono che noi non siamo i loro genitori umani, danno più retta a noi perché gli diamo delle regole che sono uguali per tutti. In un altro asilo per i cani fanno anche la spa. Lui è blu, un maltese, adesso farà la sua spa. La spa consiste in un bagno con idromassaggio, una maschera, e poi si procede con l'asciugatura e la toilettatura con taglio se è necessario. Mamma mia, ragazzi! Questa, permettimi di dire che questa antropizzazione dell'animale, sì, questa antropizzazione dell'animale, non significa amare l'animale. Non significa amare l'animale. Assolutamente no. Perché allora l'animale può avere anche appunto problemi psicologici. Ma ci sono anche i colloqui con le maestre, magari, del cane. Sì, ci sono i colloqui psicologici, capire. Lo sappiamo che c'è qualcuno che gli psicoterapeuti dei cani esistono. Ma sì, indagheremo appunto anche su quello, non ti preoccupare. Certo. Indagheremo anche quello su quello. Va fatta una grande indagine, perché ho saputo anch'io che c'è proprio la psicologa. Esatto. Del cane, esatto, sì. Cina, sì. Turista muore sbranato da tre tigri, mentre da tre tigri mentre allo zoo con la famiglia. Allora, l'uomo è stato attaccato dai felini dopo aver superato la recinzione che li separava dal resto del giardino zoologico. Testimoni sotto shock, è stato terribile, la sua agonia è durata più di un'ora. Ma poveretto, anche all'interno di questa redazione qualcuno ha detto se l'è cercata perché ha scavalcato la recinzione. Ora sicuramente questo cioè, signore ha tenuto in Cina, il dibattito su questo assolutamente qui. Non sulla legge elettorale, bensì su ecco, sì. Ha fatto bene o no, cioè ci dobbiamo interessare, cioè, ci dobbiamo impietosire nei confronti di quest'uomo sbranato dalla tigre. Beh, per un'ora lì nelle grinfie della tigre, poi uccisa. Caspita, di una delle tigri, insomma, uccisa oppure no. Allora, il problema è che non si sa bene cosa è successo, non è che quello si è buttato sulla tigre, no? Però ha parlato il solito Enrico Rizzi. Il solito Enrico Rizzi, l'animalista Rizzi, non so quale associazione, quello di Palermo, che basta che tocchi un animale e si scandalizza. Se muore l'uomo non gliene frega assolutamente nulla. Chiamiamolo, va. Pronto? Rizzi? Giuseppe, buonasera. Dai, aspettavo con ansia la tua chiamata. Sì, certo, per forza, no? Cioè, dopo l'ennesima stronzata detta sulla tigre, eccoci qui. Cioè, dopo l'ennesima stronzata. Ma io, guarda, io ti ho taggato apposta perché volevo un tuo commento, volevo sapere cosa ne pensavi. Allora, amico mio, io della tigre me ne sbatto i coglioni, chiaro? Ecco. Oh, ma è chiaro. Della tigre me ne sbatto i coglioni. Quello là sarà stato anche imprudente. Sarà finito non dentro. Imprudente, è un coglione, si è meritato quello che si è meritato. Ma come si è meritato? Quello là, ho capito, ma amico mio, è morto un essere umano e invece. E che vuol dire? La tigre. Giuseppe, la tigre si trovava in un habitat che non era. Era lo zoo. Arrenditi, ci sono gli zoo. Arrenditi. Certo. A questo. Ci mancherebbe altro. Perfetto. Che non ci fossero gli zoo. Dove porto la domenica i miei figli? Ma state scherzando? Meraviglioso. Perfetto. Gli zoo. Okay. Ma stupende. Quindi, lasciando stare che siamo d'accordo o non d'accordo, si trovava in un ambiente che non era il suo. Allora è proprio il suo lo zoo. Con altri animali, stava quindi mangiando. Allora. E questo imbecille arriva lì, scavalca e gli entra dentro. Ma ti sembra normale? Ma no, a parte che non si sa se ha scavalcato, se è inciampato, se ha fatto. Ma non è frega niente, è entrato là dentro, quindi si è trovato la morte. Guarda, è come quelli che vanno a fare le rapine. Viene il poliziotto e ti le spara, rapine. Sono fatti tuoi. Io uguale, la stessa identica cosa. Ma tu hai perso veramente la cotenna, tu, No, cioè, è hai perso. La stessa identica cosa. Penso, ha mai fai avuto, la rapina, se entra a casa di qualcuno, se vai nel posto che non è il tuo, se vai in un posto dove non è il tuo, ma è di un altro. Ho capito, a me. È normale che rischi. Sì, ha rischiato, ha perso la vita, sono cazzi suoi adesso. Mi dispiace per la tigre, perché è l'unica vita. Ah, ti dispiace per la tigre, è l'unica vita. Veramente, sì, ma sì, ha perso la vita per un deficiente. Ma che devono fare quelle, questo è la colpa sua. Ma quello è stato un'ora in agonia, un'ora di agonia sbranato da quello. Chi se ne frega, pure la tigre ha fatto agonia per morire, per colpa sua. Quella tigre lì è non stata stare, Giuseppe, è sta, ho capito, ma è stata ammazzata perché chiaramente qualcuno voleva, ha cercato di salvare la vita a un essere umano che avrà sembra giusto e ti sembra che giusto bisogna fare tu per che, un cretino. Ma tu che cosa un avresti cretino. Ma tu cosa questo avresti fatto? Ma cosa avresti fatto? L'avresti lasciato sbranare così tranquillamente? No, non ci sarei andato là. Vabbè, non ma ci sarei andato, là è diverso, a maggior ragione non avrei scavalcato. Vabbè, cioè, ma questo è un problema grave. Questo è un imbecille. Rizzi, questo detto. È un imbecille che si è cercato la morte, Giuseppe. Ho capito, ma una volta che è successa quella roba lì, una volta accaduta quella roba lì, che cosa avresti fatto? Avresti lasciato sbranare così tranquillamente, senza cercare di salvarlo sparando la tigre? Cosa avresti fatto? Avrei eventualmente sparato un sonnifero, non l'avrei uccisa. Però conoscendo i cinesi, purtroppo, immagino che fanno così con chiunque. Beh, amico mio, cioè, secondo te dunque a quel punto era meglio lasciarlo così in mano alle tigri senza provare di salvare? No, allora, che sia chiaro, io non sto dicendo che era meglio lasciarlo così. Come no? Io, che tu mi creda o non mi creda, ti posso dire che se io assisto a una scena del genere è ovvio che cerco di salvare la persona, mica lo lascio morire. Ti sto semplicemente dicendo che comunque questo è stato un cretino, perché ha scavalcato in un posto dove non era il suo. Vabbè, ho capito, si sarà sbagliato, mica un suicida, della tigre. Si è suicidato, è un cretino. Sì, si è suicidato. È una morte cercata. Sì, il problema morte è che per colpa sua, il problema, ti ripeto, che per colpa della sua cretinità, definiamola così, ha perso la vita un essere vivente, un animale indifeso che non c'entrava nulla. Stava per perderla un uomo, questo è il problema. Sei più preoccupato della tigre che dell'uomo. Vergognati. Vergognati. Io ho le palle piene di gente che usa gli animali per divertirsi. Devi vergognarti. Io le uso anche per divertirmi e me ne frego di quello che dice. Chiaro? Devi vergognare pure tu. Ma devi vergognare gli animali pure sono gli animali esistono anche per far divertire l'uomo. Con la solita stronzata tua, anche per far diventare, anche per far divertire l'uomo al servizio dell'uomo, al servizio dell'uomo. Ma scusami, Marizzi mio, ma cosa? Ma ragiona 40-30 secondi. Il leone, la leonessa, la tigre, quando vede tutti quei bambini lì è contenta. Ma gli si dà da mangiare un po' di carne e lì non fa un cazzo dalla mattina alla sera. Al massimo ci porti i tuoi figli, Parenzo. Li porto sempre i miei figli. Li porto i miei figli. Tutte le domeniche li porto a vedere gli animalini, la tigre, il leone, tutto. Nella savana vive in un mondo ostile, se mangiano appunto, tra di loro. Esatto, ma sono gente civile che si fa i viaggi e va nella savana a vedere gli animali nel loro habitat. Ottimo. Come fanno le persone civili? Come fanno le persone civili? Comunque, anche avere un bel leone nel centro di Roma, Villa Borghese, è meraviglioso. Lì il leone che fa... Vabbè, Rizzi, ciao. Tu ti rendi conto, un episodio, come dire, anche drammatico, di cronaca, Cina, viene trasformato in una guerra all'essere umano. Cioè, il coglione, quello, io magari sarà stato anche coglione, ma una volta che uno è coglione, cioè che fa un errore, poi non è che puoi dire bisogna salvare la tigre e quell'altro, chi se ne frega se l'è cercata. Cazzo vuol dire? Ma poi ragazzi, brillante, ecco, ma dai, no, non è brillante, no, è anche brillante, è in combatte, no, pure. Ma figuriamoci, ma non mi sembra proprio, ma questi c'hanno proprio la fissazione degli animali, sono qua, c'hanno gli animali in testa. Ora, a proposito degli animali, prima di tornare agli ascoltatori, ce ne sono diversi che vogliono intervenire. Caro Parenzo, io lo sai che ci sono dei vegani incazzati con le macellerie islamiche, quello è normale, no? Cioè, alcuni gruppi vegani se la stanno prendendo con le macellerie islamiche. Ora, a me non me ne frega niente delle macellerie islamiche in particolare, però senti cosa è accaduto. Ecco, apriamo un altro fronte di guerra, benissimo, come se ne mancasse già qualcuno. Senti cosa è accaduto al telefono tra un gruppo estremista vegano e una macelleria islamica. Sentiamo. Sì, buongiorno, macelleria islamica? Sì, sì. Senta, lei non si vergogna ad uccidere un animale mentre cosciente tagliandogli la gola con un coltello? Ma come lo fa? Come lo sgozza lei? Come lo fa? Io non sgozzo, io sono vegano. Dove sei? Tu sai cosa vuol dire essere vegani? Ma lei lo sa cosa stai dicendo? Certo che so cosa sto dicendo. Sono il presidente dell'associazione Fratello Montone. Ma voi fate sgozzare anche gli esseri umani, cristiani, porca miseria. Cosa? Ripetilo se hai il coraggio. Ma voi sgozzate anche i cristiani. Noi chi? Ma stiamo... Noi? Lei chi mi sta chiamando? Prima guarda quello che fate voi. L'animali è una cosa che fatta per mangiarla, non una cosa per farla lasciarla lì a guardarlo per... volontà. Ma cosa blatera? Lei da musulmano ha fatto uso di oppiaci recentemente? Io sono studiato meglio di lei. Io sono un musulmano che segue le mie regole del Corano, quello che mi dice Dio. No, quello che dice la tua testa tua. Allora se il tuo Dio ti dice di ammazzare, tu ammazzi. No, non va bene. Stai zitto, guarda. Ah, ma siete tutta l'allegra famiglia che sgozza gli animali. No, vieni qua, vieni. Anche tu sgozzi gli animali. Sai solo parlare, stai zitto. Sì, no, è tu... Sei una cacca sotto, ascolta, sei una cacca sotto, ti tremi di sotto, hai paura. Vergognatevi. Sta parlando con una persona, non conosci niente, ma chi credi di essere io? Io sono uno che rispetta gli animali e non come voi. Ma prima che rispetta gli animali, rispetta l'essere umano. Non esiste rispetto per gli umani. Lo sai quei beep che cos'erano? Erano, no, perché l'islamico, è cambiato il regista, no, l'islamico bestemmiava. No, veramente? Giuro. Ah. Il signore islamico era una bestemmia un po', come dire, moderata, però comunque era una bestemmia. Cioè, se uno... Vabbè, abbiamo capito, dai, va benissimo. Ho no, capito. No, ma non stavo andando nel dettaglio. Ti sto dicendo, c'era una cosa condivisibile però da parte dei signori islamici. Gli animali fatti per mangiare, diceva, gli animali sono fatti ragione. Per mangiare. Fastidioso, non per guardare, fastidiosissimo. No, per guardare, animali fatti per mangiare. Effettivamente là bisogna essere d'accordo col signore islamico. Ragazzi miei, questi vegani sono veramente il massimo, vanno a rompere i coglioni pure al coso, vanno a rompere il cazzo pure alle macellerie islamiche. Vincenzo da Palermo, vai veloci ragazzi, Dai, voglio... Vai. Buonasera. Dimmi Vincenzo. E allora, senti, siamo veramente un po' incavolati. Ma chi siamo? Noi chi al plurale? Siamo un popolo, noi siamo un popolo, di fan. Ma fan di chi? Dei Pooh? E chi se ne frega? No, dai, Cruciani, fermati un attimo perché hanno fatto la storia della musica italiana. Ma che cavolo ce ne frega a noi della Zanzara? Ma ti spiego, perché c'è l'amico tuo. C'è l'amico tuo Pupo, che ha fatto poveraccio, il Chinazzi, che va dicendo delle Ghinazzi, troppo non in Tinazzi, giro. Ghinazzi, che ha detto stavolta? Io lo chiamo gelato al cioccolato, quell'essere. Ma che ha fatto povero Pupo, spiegami. Ha fatto che praticamente è andato in diretta su Verissimo, dove Verissimo ha detto che cos'è cazzate. diretta su Verissimo, che cos'è Verissimo, scusa, non ho capito. Verissimo è la trasmissione che fanno sul canale 5 sabato pomeriggio. Ah, Verissimo, quella della, certo, della fidanzata della ragazza la moglie sì. allora e niente, praticamente ha sostenuto che praticamente i Pooh hanno fatto dei concerti dove erano tutti sold out, tutti pieni, tutti con i fazzoletti nelle mani, tutti con le lacrime. Sì, ma la conosco la polemica, sì, allora? La conosci? Allora, ma dai, non ho capito. Non è giusto. Ha fatto che cosa avrebbero fatto sti Pooh? Non ho capito che cosa avrebbero detto. Avrebbero fatto i concerti con la musica preregistrata. Ma che cazzo sta dicendo scusa, ma a noi che cazzo ce ne frega? Ma perché scusa? Chiama qui? Ma a noi cosa ce ne frega? Ma che è una radio economica, Confindustria. Ma non me ne frega niente, va bene, uno dei prossimi giorni lo chiamo. Cruciani, scusami un attimo. Ma non me ne frega un cazzo dei Pooh a me, la polemica di Pupo con i Pooh, adesso glielo chiederò in privato. Ma poi magari... diglielo che ci siamo, che siamo un po', a parte che già è stato commentato. Siamo un popolo di fan dei Pooh, ma fieri. Tu al massimo devi essere fan della Zanzara, non dei Pooh. Quello è morto, è tutto finito là. No, l'hanno detto mio. Loro, non è che ho detto no, io. Caro mio. L'hanno detto loro, è tutto finito, hanno fatto no, l'ultimo concerto. No, è tutto finito perché si è fermato un'era. Vincenzo perché da Torino, vabbè, riprenderemo il discorso. Vincenzo. Sì, però a borse chiuse facciamo Vincenzo questa sul perché altrimenti. Vincenzo da Torino, dai. Quando mi fate parlare. Dimmi Vincenzo, vabbè. Dimmi, scusa, domani casomai ti richiamiamo. No, okay. No, questa è già la seconda volta che sto tentando di parlare. Mi dispiace amico mio, da contratto sono le 20:50, chiusura ai 49, io non posso più intervenire, dimmi, scusa. Dimmi. Niente, volevo raccontare una storia che mi è successa un po' di tempo fa, 10 anni fa. Ma è lunga? È lunga? Ma perché 10 anni fa, amico mio? Non sto 10 anni fa, amico mio. Mi stai mosciando i coglioni alle 20:50, ma hai già fatto venire le altre ginocchia. Ma allora che c'erano i Rom a Milano, è già da davvero. E che hanno fatto i Rom a Milano 10 anni fa, amico? Mi è cambiato tutto in 10 anni, su, a me mi è nata pure una figlia in 10 anni. Lo so, però caro mio, io per colpa di che ti hanno rubato? Che ti hanno rubato sti Rom? Mi stavano rubando il gasolio. Il gasolio 10 anni fa. Ora ragazzi, dai! Che devi raccontare? 10 anni fa mi stavano rubando il gasolio. Perché lo vuoi raccontare? Spiegami. Ma perché quando me ne sono accorto che sta gente qui stava rubando il gasolio, io ero dentro il camion che mi stava ingroppando una mignotta, porca puttana, quando me ne sono accorto non pensavo che loro... Ho messo un motocamion e me ne stavo andando, c'erano i bambini, i suoi bambini che giocavano. Ma che c'entra? Spiegami, che c'entra allora? E che c'entra? Ma perché ti stavi ingroppando una mignotta? Vabbè, Vince, ci sentiamo domani, ti richiamo, va. Giusto per la storia della mignotta ti richiamo, solo per quel dettaglio ti richiamo. Come dici? Ah, mi hai fatto le corna? Aspetta un attimo che finisce la Zanzara, poi mi racconti com'è andata. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, quando ritorno a casa, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.